You are listening to Radio Yoga Network, Italian radio that broadcasts in Italian on www.letteralmente.info. Our email address is radioyoganetwork@gmail.com. Il ritorno di Bodhitaro su Letteralmente Radio Yoga Network. Una volta al mese avremo, un mese sì, un mese no, una trasmissione nuova di Bodhitaro, quindi realizzata dopo il 2020. E un mese sì, un mese no, una trasmissione vecchia, andremo a riascoltare insieme una delle sue vecchie trasmissioni. In ogni caso, tutti i mesi, d'ora in poi, di nuovo su Letteralmente Radio Yoga Network, il ritorno di Bodhitaro, trasmissioni vecchie e nuove a cura del nostro carissimo contadino Zen, come lo chiamo io. Buon ascolto, Letteralmente Radio Yoga Network, nostro indirizzo di posta elettronica, radioyoganetwork@gmail.com. Vuoi sapere come coltivare o avere info su piante, fiori o in generale sul mondo vegetale? Ascoltaci! Radio Fiori Verdi, una radio Creative Commons. Salve a tutti! Mi chiamo Giulia e collaboro con Mauro. Email: fiori.verdi.mauro@gmail.com. Parliamo oggi di Chlorophytum o Spider Plant. La pianta cresce facilmente in vasi sollevati o in cima a colonne con foglie arcuate. La varietà variegata è di gran lunga la più comune. La pianta nel corso della sua vita emetterà dei lunghi steli con piccole piantine che possono essere facilmente rinvasate. L'effetto, visto dalla pianta sospesa in alto, è molto coreografico. Hanno una grande resistenza per l'annaffiatura, il grado di luce e sopportano temperature da rigido a caldissimo, da 4 sino a 35 gradi, e sono di fatto tra le piante più semplici da avere in casa o sul balcone. Esiste una varietà meno comune, che ha le foglie completamente verdi chiaro. Non ha parassiti o malattie fungine in ambiente domestico, ad eccezione di qualche lumaca o insetto che possa erodere le foglie. Resta sempre una splendida pianta adatta a essere regalata in svariate occasioni. Grazie per avermi ascoltato. Un grosso saluto da Radio Fiori Verdi. Ciao a tutti! State ascoltando Radio Fiori Verdi. Thank you.

Letteralmente Radio Yoga Network presenta Radio Notizie, dedicato al radioascolto, condotto da Dario Gabrielli. Un saluto a tutti gli ascoltatori di Letteralmente Radio Yoga Network da Dario Gabrielli, redattore della rivista Radio Notizie, in cui si parla del radioascolto internazionale. Chi volesse ricevere informazioni su questa rivista può scrivere ai seguenti indirizzi: Gabrielli Dario, Viale della Resistenza 33B, 30031 Dolo, Venezia, oppure inviare una email a radionotizie@hotmail.com. Da qualche tempo si può collegarsi anche al sito www.aer.org.es/radionotizie. Nel 1942, poco dopo l'entrata nella Seconda Guerra Mondiale degli Stati Uniti, la Commissione Federale delle Comunicazioni statunitensi diffuse un comunicato stampa sulle lingue straniere alle radio. L'italiano era, con 1667 ore di trasmissioni mensili, la più parlata e copriva in pratica un quarto delle trasmissioni in lingue estere diffuse da 66 nazioni in tutto il paese. Un altro quarto riguardava le trasmissioni in polacco ed un maggior numero di stazioni, ben 84. Sparite le trasmissioni in giapponese dopo il 7 dicembre 1941, in tutto erano 29 le lingue parlate alla radio oltre all'inglese, la cui diffusione impiegava 200 stazioni e nessuna delle quali trasmetteva esclusivamente in lingue estere. Le stazioni che trasmettevano in lingue estere avevano potenza ridotto, evidentemente interessate a comunità locali. Solo una radio disponeva di 50 kW e ben 94 diffondevano con solo 250 watt di potenza, e si ritiene fossero tutte in onde medie. Interessante la valutazione finale della Commissione Federale delle Comunicazioni in merito al rischio che le trasmissioni in lingua straniera potessero rivelarsi contrarie allo sforzo bellico americano. Il comunicato rende noto, infatti, che dall'inizio della guerra e sotto accresciuta sorveglianza le stazioni in lingua straniera si sono impegnate collettivamente e individualmente nella difesa contro trasmissioni sovversive. Molti programmi sono stati dedicati allo sforzo bellico degli Stati Uniti e diverse agenzie governative stanno utilizzando questi media per informare ed assicurare il sostegno dei nostri nati all'estero nelle battaglie per la democrazia. Dopo vari test effettuati alla fine del mese scorso, dal 2 febbraio 2020 il Brasile ha cominciato a trasmettere in DRM sulla frequenza degli 11.910 kHz dal sito trasmettitore HF dell'emittente pubblica e dell'impresa del Brasile di comunicazione alla regione amazzonica e ad altre parti delle Americhe. Il test è il risultato della partnership tra il Ministero della Scienza, dell'Innovazione e delle Comunicazioni, l'Università del Brasile e beneficio dello sviluppo del primo trasmettitore DRM in Brasile da parte di una associazione di trasmettitori. Il trasmettitore recentemente installato è in onda con un kilowatt di potenza, irradiando da un'enorme antenna irradiata verso nord. La qualità audio delle trasmissioni è stata registrata in Brasile ed oltre come Stati Uniti, Canada e Regno Unito. Anche per oggi il tempo a nostra disposizione è esaurito. Chi volesse contattarmi per richiedere informazioni sul radioascolto oppure proporre argomenti per la trasmissione può indirizzare le proprie richieste agli stessi indirizzi, ossia Gabrielli Dario, Viale della Resistenza 33B, 30031, Dolo, Venezia, oppure via email radionotizie@hotmail.com. Inoltre, chi volesse visitare il sito della Radio Notizie può consultarlo al seguente indirizzo: www.aer.org.es/radionotizie. Un saluto a tutti e ci sentiamo la prossima settimana. Da Dario. Gli audio che seguono sono tratti dal canale YouTube. youtube.com/user/Emanuela Torri. Buon ascolto di Letteralmente Radio Yoga Network. Buongiorno, cari e carissime nel Signore. Oggi è il 12 maggio e ci ritroviamo nella stanza delle letture casalinghe per continuare appunto la lettura di questo testo che è il Vangelo di Gesù secondo l'interpretazione di Yogananda Paramahansa, e iniziamo. Che cos'è il peccato? Come può essere perdonato? È possibile per qualcuno perdonare i peccati di un altro? Gesù allora gli disse: Simone, ho una cosa da dirti. Ed egli: Maestro, di pure. Un creditore aveva due debitori. Uno gli doveva 500 denari, l'altro 50. Non avendo essi da restituire, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro lo amerà di più? Simone rispose: Suppongo quello a cui hai condonato di più. Gesù gli disse: Hai giudicato bene. E volgendosi verso la donna, disse a Simone: Vedi questa donna, sono venuto nella tua casa e tu non m'hai dato l'acqua per i piedi. Lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e le ha asciugate con i capelli. Tu non mi hai dato un bacio. Lei invece, da quando sono entrato, non ha cessato di baciarmi i piedi. Tu non mi hai cosparso il capo di olio profumato. Lei invece mi ha cosparso di profumo i piedi. Per questo ti dico, le sono perdonati i suoi molti peccati, perché ha molto amato. Invece, quello a cui si perdona poco, ama poco. Luca 7, dal verso 40 al 47. Dopo aver letto un passo del Vangelo come questo, come non si può amare Gesù? Ogni azione, buona o cattiva, che una persona fa è governata dalla legge del karma o dalla legge di causa ed effetto. Le buone azioni producono buoni risultati, le cattive azioni producono effetti cattivi. Qualsiasi azione cattiva contro la società è chiamata crimine. Qualsiasi azione cattiva contro il benessere dell'anima è chiamata peccato. Quando un criminale infrange la legge di una città, viene condannato secondo le leggi della città. Ma il governatore dello Stato, che ha potere su tutte le leggi, può perdonarlo. Similmente, la legge del karma, che regola la vita di questa peccatrice e di tutti gli individui, è trascurabile nelle sue vie e nel suo modo d'operare. Ma Dio, che è onnipotente, e i suoi santi, che sono in sintonia con Lui e sono anche molto potenti spiritualmente, con l'esercizio della forza di volontà, hanno il potere d'arrestare in qualsiasi individuo il manifestarsi del cattivo karma, perdonare i peccati. Soltanto Dio e i figli di Dio possono completamente o parzialmente perdonare i peccati di un individuo contro la sua anima, perché egli sia molto devoto e cerchi il perdono non con la supplica, ma con l'amore divino. Essendo fatta d'immagine di Dio, l'anima non può mai cambiare nell'essenza, non importa quanto sia apparentemente peccatrice. Il peccato agisce soltanto come un'incrostazione che impedisce alla pura anima di riunirsi al puro spirito. Quando l'incrostazione fatta di peccato viene rotta, l'anima si unisce con lo spirito. Quando un litro di acqua di mare viene chiuso in una bottiglia e messo nel mare, la bottiglia impedisce all'acqua di mischiarsi con l'oceano d'acqua marina. Quando la bottiglia viene rotta, l'acqua di mare nella bottiglia diventa tutt'uno con l'oceano. Allo stesso modo le anime sono imbottigliate nel peccato e così impedite di contattare lo spirito onnipresente. Quando viene rotta la bottiglia del peccato, l'anima viene liberata e diventa una sola cosa con lo spirito. Ogni anima è un potenziale figlio di Dio ed ha in sé tutto l'amore divino. Quando un'anima diventa peccatrice o segue il sentiero dell'ignoranza, essa si allontana da Dio. Quando un'anima si concentra troppo sulla felicità dei sensi, allora è peccatrice, cioè dimentica di cercare la felicità superiore della beatitudine sempre nuova, presente nell'anima e che può essere gustata in meditazione. Chi ama i piaceri sensuali più del beato contatto della meditazione è un peccatore contro la sua vera felicità. Non importa quanto veementi siano queste anime nel seguire la felicità materiale, quanto le loro menti si volgeranno dentro e cercheranno sinceramente, e finalmente grazie alla meditazione otterranno la felicità. Esse non dovranno passare, parzialmente o completamente, attraverso le sofferenze collegate al loro precedente attaccamento ai sensi. Significato di peccatore. Essendo fatta d'immagine di Dio, ogni anima è un figlio di Dio e come tale ha in sé ogni potere. Perciò quando un figlio di Dio sceglie di identificarsi con i sensi o d'agire contro la sua vera felicità, allora è un peccatore, cioè un violentatore della sua autentica felicità divina. Ma quando l'anima peccatrice realizza che causa dell'illusione di sogno essa immaginava temporaneamente di essere peccatrice, mentre in realtà è un figlio e una figlia di Dio, allora sente la gran fede di non essere una peccatrice, ma una vera figlia di Dio che come tale ha in sé ogni potere. Quando nasce questa fede nel suo vero sé interiore, allora essa dimentica l'immaginazione di essere una persona peccatrice e realizza di essere una vera o un vero figlio di Dio. La convinzione di essere un peccatore è immaginaria e incostante in un'anima, ma la convinzione latente che l'anima è un figlio di Dio è immutabile e permanente, anche se temporaneamente nascosta sotto la copertura del peccato. Perciò ogni anima che ha fede, che ha fede nella e amore per la divinità della sua anima e l'onnipotente natura di Dio si affranca presto dai risultati di tutte le cattive azioni fatte nel passato. Se una stanza è stata buia per un migliaio di anni, l'oscurità non può essere scacciata battendola con un bastone, ma se viene introdotta una luce, 1.000 anni di oscurità sono dispersi in un attimo. Similmente, quando un'anima vive nell'oscurità dell'ignoranza e piena di cattive azioni per incarnazioni, non di meno, quando viene accesa la luce della saggezza e della fede nell'anima in Dio, allora tutta l'oscurità risultante dai semi accumulati dalle cattive azioni delle incarnazioni viene dispersa in un attimo. La peccatrice che Gesù perdonò era potenzialmente divina. Malgrado i suoi numerosi peccati, ella realizzò il potenziale potere di Dio dentro di sé e il potere di Gesù che poteva risvegliare in lei la coscienza divina, che l'avrebbe liberata dall'obbligo di raccogliere i risultati delle sue azioni passate. Questo è ciò che si intende con il perdono dei peccati. Dottore spirituale, il cieco non può condurre il cieco. Un peccatore non può perdonare un altro peccatore. Un prete peccatore non può perdonare i peccati di un membro peccatore della Chiesa. La confessione fatta a un prete che ha bisogno lui stesso della confessione non fa alcun bene. La confessione fatta a un vero prete spirituale è buona. Un prete spirituale è un dottore spirituale che può diagnosticare i difetti psicologici del fedele che si confessa, prescrivendo il rimedio spirituale adatto a lui. Ogni individuo che pecca contro la propria felicità deve cercare il consiglio di un maestro spirituale e imparare come può essere liberato dal raccogliere i risultati delle sue azioni peccaminose. I preti comuni non possono perdonare i peccati dei loro discepoli, soltanto le anime straordinarie possono farlo. È noto che i grandi maestri prendono nei loro corpi le conseguenze dei peccati degli altri. Gesù fu crocifisso perché assorbì nel suo corpo i peccati dei suoi discepoli e di molte altre persone. Così anche la crocifissione di Gesù fu regolata dalla legge di causa ed effetto. Ma anche se il corpo di Gesù fu crocifisso, la sua anima divenne libera di unirsi a Dio. Attraverso la crocifissione Gesù fu in grado di esaurire nel suo corpo i peccati dei risultati delle cattive azioni dei suoi discepoli e di numerose anime, e con ciò offrì ai suoi discepoli e a molti altri il premio della libertà spirituale. I comuni dottori spirituali o preti non possono perdonare o liberare i peccatori che vanno da loro per consiglio, ma possono offrire loro soltanto una prescrizione spirituale. Se hanno un effettivo contatto fisico, scusate, se hanno un effettivo contatto divino, i preti possono sviluppare non solo il potere di dare consigli spirituali ai peccatori, ma anche di impregnarli con il potere spirituale. attraverso il quale potranno essere liberati dai risultati delle loro cattive azioni. Tutte le azioni, buone e cattive, vengono impresse nelle cellule del cervello e rimangono come abitudini nella mente. Una persona che soffre di cattive abitudini nella mente, le cellule cerebrali sature di male, e può liberarsi imparando dei metodi di meditazione dai maestri spirituali e praticarli regolarmente finché la sua cattiva abitudine non viene trasformata dalle buone abitudini di calma e pace, e le sue cellule cerebrali sature di male non vengono cauterizzate dall'energia divina e convertite in cellule cerebrali sature di bene. Le cellule cerebrali sature di cattivi pensieri vengono cauterizzate dalla rilassata forza vitale accumulata nel cervello. Un individuo identificato con il corpo fisico mantiene la forza vitale continuamente identificata con i muscoli e i sensi. Ma l'uomo spirituale che medita mantiene i muscoli e il corpo rilassati e la mente lontana dai sensi, così che la forza vitale viene rilassata dai nervi sensori motori e accumulata nel cervello. Ecco perché la meditazione è il modo migliore di cambiare le cellule cerebrali e di sradicare le abitudini della mente. Cauterizzare le cellule cerebrali. Un'anima divina come quella di Gesù ha il potere, con la forza di volontà, di caricare il cervello d'energia cosmica che cauterizza tutti i mali saturati nelle cellule cerebrali e le cattive abitudini saturate nella mente. La donna che grazie alla sua fede fu perdonata di molti peccati rilassò la sua mente dai sensi e andò dentro. Quando Gesù si accorse che questa peccatrice desiderava abbandonare l'identificazione con i sensi e concentrarsi sul cervello con la sua energia cosmica, stimolò l'energia vitale lì raccolta e cauterizzò le cellule cerebrali della donna, bruciando tutti i semi e le tendenze di peccato ivi saturate. Perciò i comuni insegnanti spirituali non devono pensare che sia facile perdonare i peccati dei loro discepoli. Un insegnante spirituale che può staccare la sua mente dai sensi, raccogliere la sua energia nel cervello e cauterizzare le sue cellule cerebrali con la ripetizione di queste azioni può mostrare ad altri come fare altrettanto. Quando si è molto sviluppato con un atto di volontà, egli può mandare l'energia nelle anime recettive e rilassate e guarire i loro cervelli dalle cattive abitudini. Ogni anima, essendo fatta d'immagine di Dio, è divinità potenziale. Ma quando un'anima fatta d'immagine di Dio si identifica con il proprio corpo e il piacere dei sensi, allora dimentica la propria natura divina, perciò agisce contro il proprio interesse e pecca contro se stessa. Se un principe sperpera il suo denaro per i suoi malvagi amici, folli di piaceri, facendoli bere e mangiare, allora pecca contro il proprio interesse. Allo stesso modo, quando un'anima principesca provvede ai temporanei piaceri del corpo, essa dimentica di concentrarsi sull'eterna e sempre nuova beatitudine celata dentro di sé. Liberato dall'amore. Dio è amore. Ogni anima anche se illusa o in uno stato peccaminoso, è fatta d'immagine dell'amore di Dio. Non importa quanto profondamente un'anima colpita dall'errore si è identificata con i piaceri fisici, quando per mezzo della meditazione essa sentirà molto l'amore di Dio dentro di sé, allora comincerà a sollevarsi sopra tutte le sue cattive abitudini di identificarsi con i peccaminosi piaceri dei sensi. Questo è ciò che successe a questa donna che amava troppo. La peccatrice sentì moltissimo l'amore di Dio dentro di sé e per questo i suoi peccati furono perdonati, cioè con la propria coscienza e l'aiuto di Gesù Cristo la sua coscienza fu liberata dalle abitudini del peccato o di identificarsi con i piaceri dei sensi. Deve essere ancora ricordato rigorosamente che soltanto Dio e i grandi santi, che comprendono e conoscono l'esatta relazione tra la mente, le abitudini e il cervello degli individui, possono cambiare la natura della loro anima, delle loro menti, delle loro cellule cerebrali e così perdonarli o liberarli dal soffrire i risultati delle loro cattive azioni. Se una persona beve un potente veleno e quindi confessa il suo peccato di voler commettere suicidio a un comune prete, quest'ultimo non può perdonare la persona avvelenata dal patire i risultati della sua azione peccaminosa contro il corpo, evitandole così la morte. Se un prete non può perdonare gli individui dal peccato, dalle conseguenze dell'avvelenamento corporeo, come può perdonarli dal subire le conseguenze dei loro peccati mentali, morali e spirituali? Alcuni peccatori creduloni pensano che confessando i loro peccati a un prete comune ricevano la libertà e l'amnistia divina dal subire le conseguenze delle loro cattive azioni. Siccome nella confessione ricevono una sorta di consolazione mentale e poiché non possono vedere la sottile operazione della legge del karma che governa tutte le azioni, essi pensano di essere perdonati. Ovviamente l'interpretazione di Yogananda è diversa da quella che poi comunque è l'interpretazione dei cristiani, no? Soprattutto dei cristiani dell'Evangelo, che loro sostengono che nel momento in cui tu sia con la mente e con il cuore confessi di credere in Gesù, di credere che Gesù sia stato risuscitato, di credere che lui è il tuo consolatore, il tuo personale salvatore, loro sostengono invece che questo atto, questa confessione, automaticamente ti liberi da tutte le conseguenze delle cattive azioni, che poi secondo loro ovviamente sono relative all'unica esistenza che per loro c'è, no? Perché loro non credono alla reincarnazione. Quindi questa è una diversa interpretazione ovviamente, no? Che Yogananda dà, diciamo, un'interpretazione che può essere accettata o non accettata. A noi adesso in questa stanza delle letture casalinghe non ci interessa dare una risposta assoluta, unica, no? Noi adesso stiamo leggendo e quindi Yogananda interpreta così. Quindi poi dobbiamo approfondire, vediamo poi se lui dirà anche altro riguardo alla figura di Gesù. Legge cosmica e umana. L'operazione della legge cosmica riguarda le azioni umane è differente dall'operazione della legge umana. Quando viene scoperta e propriamente condannato, un criminale è rapidamente punito dalla legge umana, ma se non viene scoperto, egli non può rimanere libero. Egli può rimanere libero. La legge cosmica non punisce coscientemente nessun individuo. Ogni individuo ricompensa o punisce se stesso a seconda se è in sintonia con la legge cosmica o agisce contro di essa. Se un uomo dà un pugno contro una parete di ferro, non si ferisce per il desiderio del muro di ferro di ferirlo, ma perché è stato talmente sciocco da colpire una parete di ferro. L'uomo è nato ad immagine di Dio, le leggi cosmiche dell'armonia governano la sua vita, ma quando usa il suo libero arbitrio per agire contro l'armonia del suo essere, egli procura sofferenza a se stesso. Quando è in sintonia con l'armonia interiore nell'anima, egli si ricompensa procurandosi felicità, ma Dio punisce e ricompensa gli individui. Essi si puniscono o ricompensano da soli, in conformità rispettivamente ai risultati delle loro buone o cattive azioni. Quando un uomo fa il male, non c'è nel mondo una forza cosciente pronta a piombare su di lui e a distruggerlo, ma i semi delle sue cattive azioni rimangono piantati nel cervello, pronti ad attirare altro male e a germogliare nel suolo favorevole di una cattiva esperienza. Le cattive azioni lasciano le cattive tendenze, lasciano delle cattive tendenze. Le cattive tendenze si sviluppano in cattive abitudini e le cattive abitudini risultano in cattive azioni. Questo è il modo in cui un peccatore punisce se stesso. Le sue tendenze continuano a perseguitarlo finché non diventa disperato, facendo sempre più male senza interruzione. Scusate, bevo un attimo perché oggi non mi sento proprio in gran forma perché cioè, è una giornata così strana, il sole va e viene, va e viene. Dannazione eterna. Questo ciclo del male è ciò che si intende con dannazione eterna, cioè un'anima fa continuamente il male contro il suo desiderio. Una persona che subisce le conseguenze delle cattive abitudini si sente così impotente che teme di dover continuare a raccogliere eternamente per molte incarnazioni i risultati delle sue cattive azioni. Tuttavia, dannazione eterna non significa che un'anima dovrà subire eternamente le conseguenze delle cattive abitudini. È solo che un grande peccatore continua impotentemente a raccogliere i risultati delle sue azioni e si sente eternamente condannato a vivere sotto l'influenza e nei tentacoli delle sue cattive abitudini. L'inveterato fumatore, il drogato, l'oppiomane, l'ubriacone, lo schiavo del palato, la persona dedita al sesso, gli schiavi della collera e della gelosia, tutti questi sentono di essere eternamente dannati perché agiscono male contro il loro desiderio di essere buoni. Tuttavia non c'è cattiva abitudine, per quanto forte sia, che non possa venire conquistata con la buona compagnia, la meditazione e il continuo sforzo di adottare l'antitodo della buona abitudine per neutralizzare la cattiva abitudine. Quelli che hanno le cattive abitudini dimenticano che l'abitudine è stata acquisita dopo un lungo periodo di tempo e parecchie iniziazioni di azioni cattive. Inoltre, quando una cattiva abitudine è già formata, essa toglie automaticamente all'individuo la libertà d'agire come gli pare. Le persone cattive devono agire male malgrado la loro volontà di essere buone, ma questo non significa che non potranno mai diventare buone. Anche se le persone cattive sono assai ben disposte a diventare buone, esse non devono aspettarsi che con una o due buone azioni potranno liberarsi dal male. Se continueranno a lungo a fare buone azioni e a tenersi lontane dalla cattiva compagnia e dai cattivi pensieri che stimolano le cattive azioni, certamente svilupperanno delle buone abitudini, che a suo tempo cacceranno fuori le cattive abitudini. Quando viene scoperto un assassino, può essere giustiziato dalla legge umana, ma se non viene scoperto può rimanere libero. Ma secondo la legge cosmica, un assassino accumula tendenze assassine nel cervello. Un assassino non è punito venendo assassinato da qualche altro individuo, come molti suppongono, secondo la vendetta della legge cosmica. La legge divina non funziona secondo la politica dell'occhio per occhio. La legge divina non funziona secondo il sistema dell'occhio per occhio, dente per dente. Un assassino, invece, accumula dentro di sé tendenze omicide e, dallo stesso momento che commette l'assassinio, comincia a punirsi continuamente attraverso la coscienza, il terrore interiore e l'incapacità d'agire secondo la legge «fai agli altri come vuoi che essi facciano a te». Punizione mediante la coscienza. Un assassino sa che non vorrebbe essere assassinato né subire il dolore fisico e i terrori mentali della non esistenza. Perciò, quando commette l'omicidio e rimane impunito, egli è tormentato dal pensiero di aver agito contro la propria coscienza, commettendo un'azione che non vorrebbe che succedesse a sé stesso. Questa tendenza omicida rimane nell'assassino come abitudine omicida e terrore di venire lui stesso assassinato. Certo, perché poi in realtà se tu procuri il male a qualcuno, in realtà tu stai nel male, cioè quindi tu, anche tu stesso, poi alla fine in realtà vivi nella paura. Cioè vivere nel fare del male agli altri, truffare gli altri, istigare gli altri all'odio, per esempio, quello che c'è molto ultimamente. Io percepisco un po' questo in giro, no? C'è una istigazione generale all'odio e che non è chiaramente commettere un assassinio, però le persone che vivono questo stato d'animo continuo, in realtà il mondo è un po', diventa un po' il loro specchio, perciò tutto quello che tu poi fai agli altri, hai paura che poi venga fatto a te, no? Vedi, lui proprio lo dice questa cosa. Quindi è proprio così, no? Perciò quando commette l'omicidio e rimane impunito, egli è tormentato dal pensiero di aver agito contro la propria coscienza, commettendo un'azione che non vorrebbe che succedesse a se stesso. Questa tendenza omicida rimane nell'assassino come abitudine omicida e terrore di venire lui stesso assassinato. Se l'assassino non si libera con la meditazione e il contatto di Dio, o tranquillizzando la sua coscienza, consegnandosi alla legge, allora se rimane impunito in un'incarnazione, nella prossima incarnazione si accorgerà di star portando dentro di sé la bomba di una tendenza omicida. Sotto l'influsso del fuoco dell'ira, la bomba mentale della sua tendenza omicida potrà esplodere in un'altra improvvisazione d'assassinio, nella quale egli potrà a sua volta essere ucciso dal suo avversario. Bisogna capire che in questo caso la legge cosmica non uccide l'assassino attraverso un altro individuo, ma con le sue cattive azioni l'assassino attira a sé l'omicidio. Poi le disse: «Ti sono perdonati i tuoi peccati», Luca 7, il verso 48. Grazie al potere attirante o recettivo della donna, Gesù realizzò che l'energia cosmica era uscita da lui ed era entrata nel corpo della peccatrice, guarendo le sue cellule cerebrali sature da abitudini peccaminose. Con le parole «Ti sono perdonati i tuoi peccati», Gesù enfatizzò che l'energia divina trasmessa da lui era stata il fattore principale della guarigione della donna. Gesù mise in rilievo il seme di guarigione del potere divino, che è il primo fattore essenziale nella guarigione della malattia fisica di un individuo. È proprio vero. Seme e suolo. Nelle sue successive parole, «La tua fede ti ha salvata», Gesù mise in rilievo il suolo della fede nell'illimitato potere della guarigione divina, che costituisce il secondo fattore richiesto nella guarigione dalle malattie fisiche operata dal potere divino. Come una pianta cresce dopo che il giusto seme è stato piantato nel terreno propriamente coltivato, così la pianta divina della guarigione cresce quando il giusto seme del divino potere di Dio viene seminato da un maestro sul terreno della vera fede di un devoto. Allora i commensali cominciarono a dire tra di loro: «Chi è quest'uomo che perdona anche i peccati?» Ma egli disse alla donna: «La tua fede ti ha salvata, vai in pace». Luca 7, dal verso 49 al 50. Coloro che sedevano a tavola con Gesù si chiedevano chi fosse Gesù per perdonare i peccati di una persona. Indubbiamente la gente si interrogava sul potere di Gesù, poiché egli era uno con Dio e poteva fare tutti i miracoli autorizzati dalla volontà divina. Volontà paralizzata dal peccato, o donna, la tua fede nell'illimitato potere della guarigione divina ha caricato di volontà divina la tua volontà paralizzata dal peccato, causando la liberazione dell'energia racchiusa nel cervello, la quale, rinforzata dall'energia cosmica proveniente da me, ha bruciato le abitudini peccaminose piantate nelle tue cellule cerebrali. Ora, liberata dalla costrizione e dalla reazione automatica delle cattive abitudini e della schiavitù dei sensi, tu puoi essere cosciente della pace risuscitata dalla tua anima. Nella frase «Sono perdonati i tuoi peccati» è dato rilievo al potere divino e a quello di Gesù, che destò l'onnipresente volontà divina per mandare la curativa energia cosmica nelle cellule cerebrali della peccatrice. «La tua fede ti ha salvata», enfatizza la liberazione della latente energia vitale curativa nelle cellule cerebrali della peccatrice, dovuta al risveglio della sua volontà paralizzata dal peccato, in risposta alla volontà divina di Gesù e Dio. Abbiamo oggi, con questa lettura, abbiamo terminato il video di oggi nella stanza delle letture casalinghe. Come al solito, cari e carissime amiche nel Signore, Vi auguro ogni bene e ci vediamo al prossimo video. Grazie. Arrivederci. Gli audio da YouTube su Letteralmente Radio Yoga Network vengono prelevati su precisa autorizzazione degli autori. Ciò non autorizza nessun'altra stazione radiofonica a ritrasmettere tali contenuti che, ripetiamo, sono stati concessi a Letteralmente Radio Yoga Network esplicitamente. Rema nella direzione giusta, scegli letteralmente Radio Yoga Network, www.letteralmente.info. Con noi è meglio. Il mondo di Sofia Meyel. Buon ascolto in esclusiva su Letteralmente Radio Yoga Network con Nadia Mirasoli. Eccoci qua, siamo di nuovo con Sofia Meyel, ragazzi. Ciao, ciao, ciao, ciao. Allora, che poi non bisogna mai iniziare un programma dicendo allora, però io faccio l'ennesimo errore. Allora, ripeto, dopo questo lockdown del cavolo, dopo un'estate calda, ma peccato perché io amo il caldo, vorrei che fosse tutto l'anno caldo, vi ricordatevi che quest'inverno non dovete buttarvi nel cibo, nei carboidrati, ma semplicemente tenere la linea, anzi approfittare, perché poi dopo, visto che non saranno più freddi di una volta, mi raccomando, abbiate cura di voi. Perché vi chiedo questo e vi dico questo? Perché il lockdown ha fatto male a tutti. E quindi voi non vuole, la stragrande maggioranza di noi siamo depresse. Come si fa a combattere questa depressione? Che la depressione è uno status che noi ci creiamo, quindi non deve esistere. Buttatevi in palestra, amatevi di più e così riuscirete a migliorarvi e avete lo specchio che ve lo confermerà il vostro miglioramento. Giusto Nadia? Come la pensi Nadia? Sì, giustissimo, sono come Stefania, la figlia della Giovanna Marchi. Brava Giovanna mamma! Ma è la Vanna Marchi, no Giovanna! Allora. Quando sto con Sofia sono fusa, perché lei mi stimola l'accelerazione dei pensieri e della lingua. Soprattutto della lingua, perché noi effettivamente, visto che parliamo veloce, abbiamo uno scioglilingua, quindi siamo abbastanza... Ecco, devo fare anche benzina, se no rimaniamo a piedi, spingerò la macchina. Ragazzi, quindi amatevi, curatevi, mandate a quel paese i brutti pensieri, datevi da fare, scegliete la vostra dieta, la vostra giusta alimentazione, niente schifezze. E nei momenti di rotture di balle e voglia di schifezze, fatele con intelligenza, quindi roba integrale, roba vegana, questo è un ottimo consiglio. E poi ragazzi, non fate mai la spesa quando avete fame, non comprate cose che poi vi fanno male e vi fanno ingrassare, e sarete più felici, perché più belli si è, più felici si è. Spendete anche se andate a Lupimo, andate anche da H&M, compratevi una magliettina da 5 euro, quello è un regalo che vi fa bene, oppure vi spiaccicate in palestra, oppure vi guardate un film con tanto amore sotto le coperte senza i popcorn, però non li mangiate che fanno male. Arriva, ecco, mi stanno venendo a prendere. Voglia di talk radio? Ascolta anche tu, letteralmente, Radio Yoga Network. Insieme è meglio. Buon ascolto di Yoga Network, la nostra radio, a volte è letteralmente radio, a volte è Radio Echo One, ma in realtà questi sono titoli di trasmissioni. La nostra radio si è sempre chiamata Yoga Network in realtà, tanto più che il nostro indirizzo di posta elettronica è da sempre, radioyoganetwork@gmail.com. E anche se di volta in volta abbiamo aggiunto davanti al nome Yoga Network letteralmente radio, a volte d'ora in poi Radio Eco One, siamo sempre e saremo sempre Yoga Network. E avevamo anche messo giù una nuova programmazione che doveva partire da febbraio 2021, anzi parte, e per chi mi sta ascoltando, magari in realtà mi state ascoltando nel 2058, nel mese di agosto, ma comunque per chi mi sta ascoltando in tempi un po' più recenti, rispetto alla registrazione che sto facendo in questo momento, la programmazione dovrebbe prevedere ogni domenica un podcast settimanale anziché due, ogni domenica lo Sui Medici, oppure a domenica alterne il nostro Body Taro, sempre ogni domenica Emanuela Torri con letture casalinghe e quando finiranno le letture spirituali speciali, oppure a domenica alterne Giorgio Cerquetti, Antonietta La Terza, La Voce delle Sirene, oppure a domenica alterne Sofia Meyer, Dario Gabrielli, Radio Notizie, e a seguire la trasmissione di Radio Eco One della settimana precedente, quindi niente più Internet Archive, questi file del radioascolto, perché saranno inglobati dentro alle trasmissioni di Radio Eco One. E infine nel nostro podcast settimanale doveva esserci il podcast di Radio Ishvara del venerdì precedente, su gentile concessione della stessa Radio Ishvara, ma i podcast di Radio Ishvara durano sempre 3-4 ore. Abbiamo scoperto che su Anchor non è possibile caricare file più lunghi di 3 ore. Quindi abbiamo pensato ogni settimana semplicemente di mandare in onda questa registrazione audio che io sto registrando per voi per spiegarvi il nuovo palinsesto, e a questo punto non fate altro che andare ad ascoltarvi il podcast di venerdì scorso di Radio Ishvara direttamente sul sito Radio Ishvara. Il nome corretto sarebbe Radio Ishvara, però io ho sempre paura che poi lo scriviate magari con la H-I-S-H, allora tante volte invece dico Radio Ishvara, tanto si può dire in tutti e due i modi, anchor.fm/radio-ishvara. Andate a visitare il sito di questa grande radio dedicata alla ricchezza della cultura vedica, e ogni venerdì lì troverete un podcast nuovo, sempre gestito a cura del gruppo culturale associativo che gestisce anche Yoga Network. Vi ricordo il nostro sito www.letteralmente.info e rimanete sintonizzati, rimanete in ascolto con noi. È questa. Radiofoniche staticamente parlando, o meglio, ascoltando. Ovunque in Italia non c'è paragone. Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC. Hare Krishna Ribol. Eccoci qua di nuovo insieme per una nuova puntata di Fuori dal Tempo. Cercando, rovistando tra questi programmi che sono accumulati in questi anni di trasmissione qui a RKC, Radio Cristo Centrale, si trova veramente trattati su tutti gli argomenti. Quello che vi faccio ascoltare tra pochi istanti è un argomento trattato da niente meno che Somaka Maharaj. Chi è Somaka Maharaj? Somaka Maharaj è un sannyasi, cioè un devoto che è arrivato all'ultimo stadio della vita spirituale. Questo non vuol dire che sia vicino alla morte, magari uno pensa, ecco, allora... No, semplicemente ci sono quattro tappe spirituali. La prima si chiama Brahmachari, ripetiamo ancora per chi non avesse mai sentito, che è un periodo di studio che fanno i ragazzi sotto la guida di un maestro spirituale, possibilmente, dove c'è controllo dei sensi e semplicemente si impegna a studiare le scritture, approfondire la conoscenza. Stiamo sempre parlando in campo spirituale. Dopodiché c'è la tappa del Grihastha, Grihastha viene da Griha, casa, dove chi lo desidera, chi ne sente la necessità, può impegnarsi nella vita matrimoniale. Naturalmente, a questo punto si può avere un'attività sessuale, si può avere una casa. Naturalmente tutte queste cose, sempre spiritualmente parlando, si possono fare, però con delle regole. Quindi per chi è interessato ad avanzare nella vita spirituale, può vivere queste tappe nel miglior modo possibile, cercando di mettere sempre Krishna al centro di ogni attività. Dopodiché la terza tappa, Vanaprastha, è una tappa di transizione, quando i due coniugi, arrivati ad una certa età, si preparano poi all'ultimo stadio, che sarebbe appunto il sannyasi, cioè l'ordine di rinuncia totale, dove la persona si dedica esclusivamente a predicare le glorie del Signore e a prepararsi per l'esame finale. Quello che determinerà se la faremo fatta finita con questo mondo materiale o no. Bene, allora Somaka Maharaj ci ha parlato di molte cose e in questo speciale Italia ci parlerà inizialmente di bambini, proprio i bambini. Qui a Villa Vrindavan abbiamo molti bambini, abbiamo una scuola, si chiama Gurukula, la scuola del guru, scuola per maestri. E naturalmente siete invitati a venirci a trovare, a venire a visitare questa scuola e anche tutto il resto del tempio, naturalmente. Gurukula è presente in molti centri della coscienza di Krishna nel mondo e questa scuola mette l'accento naturalmente sull'insegnamento spirituale. Benissimo, ma passiamo ora senza indugio a Somaka Maharaj. I bambini, c'è uno studioso, un professore che da moltissimi anni sta studiando i bambini, un laboratorio bambino, cioè c'è un laboratorio in cui studia i bambini, e dice che c'è chi aggredisce, chi minaccia, chi rifiuta, chi è timido e chi è solitario, e anche chi fin da piccolo è un capo. Come si fa a riconoscerlo? Come si comporta? Per scoprirlo, uno studioso francese ha filmato e valutato gesti, pasti e giochi dei bambini per 12 anni. 12 anni di studio sui bambini. Interessante questo professore, questo studioso, che per 12 anni ha studiato i bambini. Prima di studiare i bambini studiava le vespe. Naturalmente le vespe insetto, non le vespe quelle della Piaggio, perché oltretutto in Francia la vespa non è molto popolare, Allora e vediamo un po' come mai questo studioso è passato dalle vespe allo studio dei bambini, La risposta è che dice: avevo notato che tra le vespe esistevano rapporti di dominanza e un linguaggio ritualizzato fatto di atteggiamenti e mimiche con valore di segnali. Così mi sono chiesto se lo stesso avveniva tra i bambini. Mi sono anche chiesto perché alcuni bambini sono costantemente aggressivi, perché altri, definiti scontrosi, solitari o timidi, non riescono o addirittura non cercano a inserirsi nei giochi e nelle attività comuni. Quali sono le accuse, quali sono le cause del rifiuto di un bambino da parte di un gruppo e perché alcuni bambini, al contrario, trascinano gli altri nei loro giochi e sembrano esercitare su di essi senza ragione apparente un'attrazione naturale? Allora, come ha proceduto questo professore nello studio dei bambini? Dice che nel 1970 si è installato in un nido di infanzia municipale di Besançon e lì, nascosto in fondo a una stanza dietro un paravento a fiori, ha incominciato a filmare senza interruzione dalle 9 alle 11 e dalle 14 alle 16:30 i giochi, i pasti, i litigi dei piccoli bambini, e in 10 anni ha così realizzato più di 10.000 ore di film. E nel frattempo si era costituita una equipe di una ventina di etologi, medici, biologi, psicologi e insegnanti che erano interessati a queste ricerche, e tutti assieme hanno dunque ampliato il campo delle loro osservazioni dalla nascita alla fine della scuola primaria, e così hanno completato le analisi di laboratorio e gli esami clinici e psicologici effettuati in cliniche ginecologiche e asili nido e nelle scuole. E cosa hanno scoperto? Cos'è che hanno scoperto in questi loro studi, in queste loro ricerche sui bambini? Soprattutto in questi loro studi, cosa hanno scoperto di quello che già le madri o quelle persone che si occupano di bambini non sappiano già? E allora, al loro dire, dicono che hanno scoperto che c'è un linguaggio che non è verbale, è molto più complesso di quanto non sembri tra i bambini, e naturalmente tra i bambini di un nido di infanzia, e che mettono in evidenza il tipo di comportamento diverso, i comportamenti di rassicurazione, di sollecitazione, di accettazione reciproca, i comportamenti di allontanamento o di rifiuto, di minaccia o di aggressione. Mm. nascosto dietro a questo paravento per 12 anni praticamente ha filmato dei bambini, no? E filmato dei bambini per vedere le loro abitudini, le loro attività, per cercare di capirli, no? E tutti quanti cercano di capire qualcosa, tutti quanti studiano, no? Tutti quanti cercano di conoscere meglio quello che ci circonda, e questo è molto interessante, no? È buono che uno ricerchi sempre di più la conoscenza, che uno ricerchi la conoscenza, che uno ricerchi di conoscere meglio, di conoscere sempre di più, eh? E appunto questo studioso ha studiato questi bambini e ha ricercato in questi bambini, cercando appunto di conoscerli meglio, no? Di studiare tutte le loro abitudini, così ha scoperto che hanno un linguaggio che non è un linguaggio, cioè un linguaggio che non usa parole, che non usa appunto dei suoni, ma che usa più dei gesti o delle parole mozzate o appena dei gridolini, insomma ha scoperto che i bambini hanno un altro mezzo di comunicare tra di loro oltre che a quello tradizionale delle parole, no? Ma in effetti questo linguaggio non ce l'hanno solo i bambini, ma ce l'hanno anche gli adulti. Anche gli adulti sanno comunicare tra di loro senza usare appunto parole o senza usare quello che è il tradizionale mezzo di comunicazione, appunto, che sono le parole, un linguaggio diciamo ben definito. Quindi anche i grandi usano i gesti, anche i grandi usano espressioni, anche i grandi comunicano tra di loro attraverso altri mezzi che quelli dei bambini, in effetti. Il problema è che in genere le persone si rivolgono ai bambini considerandoli appunto dei bambini, cioè considerandolo un essere vivente che è appena nato, cioè un essere vivente che è nuovo, nuovo, appena nato, mentre la cultura vedica ci insegna che l'essere vivente è eterno e semplicemente trasmigra da un corpo all'altro, quindi a volte sta nel corpo di bambino, a volte sta nel corpo di adulto, a volte sta nel corpo di anziano, ma è sempre lo stesso essere vivente. Vediamo un momento come questo professore descrive alcuni degli atteggiamenti dei bambini. Dice: certamente voi distinguete il comportamento di minaccia dalla bocca aperta con emissione di una vocalizzazione caratteristica, aggrottare di sopracciglia, braccio alzato o proiettato in direzione dell'altro, gesto di scuotere qualcosa simile alla minaccia dello scimpanzé. I comportamenti di aggressione consistono nel colpire, tirare i capelli, mordere. Molto più ricco è il comportamento di rassicurazione, che caratterizza quello che io chiamo il bambino leader. Esso comporta spesso gesti di offerta. Il bambino presenta spontaneamente alla puericultrice un pezzo di carta o un giocattolo. Se un altro bambino si mette a piangere perché ha lasciato cadere il proprio giocattolo o perché un altro bambino glielo ha tolto, lo consola tendendogli il suo. Nell'87% dei casi questo gesto di offerta sbocca in imitazioni reciproche e in concatenazioni rassicuranti, carezze, sorrisi, attività in cooperazione per indurre gli altri a imitarlo, a seguirlo. Il bambino, questo bambino, per cercare che gli altri lo seguano, lo imitano, fa tutte queste un po' carezze, questi gesti affettuosi, A volte il bambino leader utilizza anche movimenti quali dondolarsi, scuotere la testa da destra a sinistra. Altro esempio particolarmente sorprendente è l'atteggiamento che abbiamo definito di sollecitazione. Esso consiste nell'inclinare la testa sulla spalla, talvolta accompagnato da un inclinare parallelo del busto e da altri gesti con le mani aperte. Questo movimento provoca nell'altro bambino un sorriso oppure un insieme di atti che possono essere di mimica, gesti in indicazione di qualcosa o di qualcuno col braccio teso, emissioni vocali nel 90% dei casi, nel 60-70% dei casi osservati. Esso può provocare l'offerta di un oggetto da parte del bambino sollecitato, presentata da una persona adulta alla quale il bambino è molto legato. La stessa posizione, senza nessun sorriso o gesto, spinge il bambino a precipitarsi tra le braccia del sollecitatore e, se ha in mano un oggetto, a offrirglielo spontaneamente nell'80% dei casi. Infine, se il bambino non vuole mangiare, l'atteggiamento di sollecitazione ha come risultato, in un gran numero di casi, di fargli accettare il cibo che prima, quando gli si chiedeva verbalmente di mangiare, rifiutava. Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC. Allora, questo studioso che per 12 anni ha studiato i bambini, appunto, dice che i bambini comunicano tra di loro con gesti. Gesti che però, da come lui li descrive, vediamo che sono gesti che fanno anche i grandi, anche gli adulti, no? Quindi da questo ancora di più si conferma la versione dei Veda, che appunto il bambino non è un bambino, ma è un essere vivente eterno che appunto ha appena preso un nuovo corpo e quindi si trova in un corpo di bambino. Però non è bambino nel senso che non è mai esistito, che è appena nato, che è alla prima sua esistenza, che sono i primi mesi o i primi anni di esistenza, no? Il bambino è un essere eterno che appunto ha preso da poco un corpo nuovo, quindi quel corpo è piccolino, però appunto ha atteggiamenti, ha gesti, ha praticamente attività che denotano già il suo carattere, la sua natura, denotano appunto che persona c'è all'interno di quel corpicino, corpo piccolo, ma dentro c'è già una persona praticamente adulta, potremmo dire, cioè c'è già una persona eterna e quindi che porta con sé il suo carattere, la sua personalità, la sua natura, e difatti la dimostra già fin da quando è bambino, e ha atteggiamenti appunto che non ha visto da nessuno, non ha imparato da nessuno, no? Però già li sa fare, magari non sa parlare. Per esempio, il bambino quando è piccolo non sa ancora parlare, perché il parlare lo deve imparare, lo deve imparare da qualcuno, mentre per esempio i gesti e esprimere qualcosa con i gesti lo sa già fare, perché appunto dentro c'è un essere eterno che non essendo ancora in grado magari di parlare o di manifestare con la parola le sue intenzioni, però riesce a manifestare i suoi sentimenti attraverso i gesti, proprio perché non è privo di sentimenti, non è che ancora non ha sviluppato sentimenti, perché questi sentimenti li possiede da sempre, perché è un essere vivente eterno. Questo discorso sui bambini, per cercare di capire veramente cosa c'è dentro a quel corpicino, no? Gli studiosi studiano i bambini per cercare un po' di vedere magari appunto che carattere ha il bambino che nel futuro sarà un leader, o che carattere ha il bambino che nel futuro sarà invece un sentimentale o un buono oppure un violento e così via, no? E questo studio è buono perché permette di un po' di conoscere già il bambino e quindi sapere un po' come educarlo, ma nello stesso tempo la cosa migliore è di sapere veramente chi c'è dentro quel corpicino, cioè qual è la natura di quell'essere vivente e come aiutare quell'essere vivente a raggiungere quella che è la vera meta che lui deve raggiungere attraverso quel corpo umano che ha appena preso, è bambino, ha tutta la possibilità di usare bene questo corpo umano e di usarlo nel modo giusto e di trarne appunto la giusta meta, la giusta conclusione dell'esistenza, e bisogna quindi conoscere quello che si deve fare, quello che dobbiamo fare per guidare questo bambino a trovare la sua natura vera, la sua natura originale. Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC. Siamo anime spirituali eterne, quindi veramente siamo fuori dal tempo, siamo al di là del concetto del tempo, eterne, eterne. Quindi stiamo molto attenti quando pensiamo ai bambini, perché la loro sensibilità non è diversa dalla nostra, anzi. Siamo anche molto attenti a cosa insegniamo ai bambini, perché è lì che si può veramente fare le basi per avere una persona poi che da adulta potrà approfondire la conoscenza suprema e quindi liberarsi dal ciclo di nascita e morti. In effetti, Srila Prabhupada, Sua Divina Grazia e il Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada, il nostro maestro spirituale fondatore, diceva che uno non dovrebbe mettere al mondo dei bambini se non è in grado di liberarli appunto dal pericolo di altre rinascite. Quindi un grande impegno, decisamente un grande impegno. Benissimo, ma ora facciamo un salto di argomento e passiamo niente meno che a parlare di suono. I devoti di Krishna sono un po' tutti degli esperti in suono, perché il suono è, diciamo, la base proprio anche di questo Bhakti Yoga che noi pratichiamo. Questo yoga, lo yoga più elevato, yoga dell'amore e della devozione, che parte proprio con l'ascolto e il canto di un suono. un suono speciale, il suono più potente che esista, la vibrazione sonora più potente che esista, il Mahamantra Hare Krishna. Che fra tutti i suoni di questo Kali Yuga in cui viviamo, questo Mahamantra Hare Krishna è l'unico che può liberarci appunto da questo ciclo di nascite e morti ripetute. Però dicevo, fra tutti i devoti abbiamo anche degli esperti, particolarmente esperti in suono, che da sempre si sono interessati di questo argomento. Ma andiamo a sentire proprio da uno speciale Italia di Krishna Prema Das, ex Paolo Tofani, scusate, appunto un musicista faceva parte del gruppo degli Area, qualcuno di voi lo ricorderà, quindi un esperto di suono. Ho capitato altre volte di parlare di suono, anche perché io personalmente nella mia vita sono stato coinvolto nel suono, nella musica per molti anni. Però per introdurre un argomento che così molti magari conoscono solo per quanto riguarda il risvolto estetico, ma non conoscono i particolari, e cioè un'analisi del suono, come viene fatta, come si realizzano questi dischi, che cosa succede nello studio di registrazione e che cos'è uno studio di registrazione. Molti di voi si saranno chiesti perché alcuni dischi sono registrati in una certa maniera, altri dischi presentano delle caratteristiche sonore diverse, pur magari notando, perché c'è sempre indicazioni sopra la copertina dei dischi, che i dischi, alcuni di questi due, di questi dischi analizzati per esempio, possono venire dallo stesso studio. Allora, com'è possibile? È chiaro che esiste una diversificazione data dalla creatività dell'artista, che ha dentro di sé naturalmente tutta una visione dei suoni che lui vuole ottenere nel suo disco, nel suo album, nella sua musica. E l'inizio è proprio così, cioè cominciamo ad analizzare l'inizio di un disco, come si inizia a pensare di fare un disco, All'inizio naturalmente bisogna avere le canzoni, bisogna avere i brani musicali, e questo mi sembra ovvio, mi sembra normale, no? E naturalmente ci sono due possibilità. Fino a qualche anno fa, diciamo fino a 5 anni fa, 5-6 anni fa, i gruppi avevano la possibilità di stare negli studi di registrazione per giocare un po' con queste macchine incredibili che danno la possibilità di avere tanti effetti elettronici. E così poi alla fine, dopo che avevano trovato la dimensione giusta, potevano iniziare a registrare il disco vero e proprio. Oggigiorno l'attitudine delle case discografiche è cambiata in questo senso, proprio perché i costi degli studi sono diventati piuttosto alti, e quindi far sì che un gruppo, un cantante che sia, rimanga per non so, uno o due mesi in uno studio così giocherellando con i suoni, giocherellando nel senso cercando di trovare o cercando di farsi ispirare da quelle che sono le meraviglie tecnologiche dello studio, è naturalmente troppo costoso. E questo è in contrasto un po' con il budget, cioè con il denaro che la casa discografica è pronta ad investire per quel tipo di cantante o gruppo. Allora cosa succede? Succede che gli artisti devono ricorrere a una tecnica diversa, e da oggi infatti non esiste artista o cantante o gruppo che non abbia a sua disposizione magari un registratore multitraccia, una piccola cantina, un piccolo spazio dove può così provare, mettere sui propri pezzi, giocherellare senza spendere niente praticamente, a parte la bolletta della luce, ma è sempre molto irrisoria perché queste apparecchiature non consumano molto. E così poi quando finalmente avrà tutto il materiale pronto, e qui c'è anche da dire una cosa che è interessante, questo perché man mano che il lavoro va avanti, si sviluppa, prende forma, si può sempre considerare così di sentire che cosa pensano gli altri, il produttore discografico eccetera, perché il materiale realizzato a livello di provini si può sempre cambiare, non ci sono molti problemi per cambiarlo. Quindi alla fine ci sarà un prodotto della quale tutti quelli che sono coinvolti nella dimensione del, che hanno interesse a far sì che il disco esca, saranno tutti d'accordo perché il prodotto è stato concordato. Naturalmente non pensate che la musica sia un fatto così solamente artistico, sentimentale, in realtà ci è rimasto ben poco di quello, ma è bensì diventato un fatto commerciale preciso, con delle sue logiche precise, con suoi tempi precisi, in accordo a quelle che sono le così i risultati delle statistiche che dicono, so che in questo periodo per esempio il pubblico compra di più, in quest'altro periodo compra di meno, la tendenza di adesso è verso questo tipo di musica, la tendenza di domani potrà essere su quest'altro tipo di musica. Quindi ci sono veramente molti aspetti che vanno considerati e che sono proprio alla base di tutto il lavoro fatto a tavolino, tra l'altro, dagli altri, cioè non dai musicisti, ma da quelli che ruotano intorno a questa macchina per far soldi, che è l'artista contemporaneo dal punto di vista della musica leggera. Cosa pensavate voi? Che uno aveva un'ispirazione con la sua chitarra, entrava in uno stato, in uno studio di registrazione, faceva la sua registrazione, quello che voleva, le parole che diceva erano, andavano bene, tutto bene, e poi faceva successo e tutto diventava un... No, non è così, non è più così. Siamo ben lontani da essere ancora a quello standard, perché in realtà, insomma, bisogna anche dire che i protagonisti di questo show enorme sono diventati molti, quindi la concorrenza è tanta. Proprio perché c'è tanta concorrenza, cioè bisogna anche dare un'occhiata al terreno per vedere con chi dobbiamo scontrarsi, un po' come fece Arjuna quando sul campo di battaglia di Kurukshetra chiese a Sri Krishna di guidare il suo carro in mezzo ai due eserciti, perché voleva rendersi conto prima di tutto di chi avrebbe avuto di fronte per combattere, e poi anche per dare così, fare una stima di quelle che erano le forze del nemico. Quindi vedete che anche in un argomento come quello di cui vi sto parlando adesso si possono trovare dei riferimenti perfetti che sono proprio dati dalle scritture vediche, proprio perché queste scritture sono complete. Allora, dicevamo, siamo arrivati al punto fatidico, e cioè nel momento in cui l'artista finalmente ha realizzato e ha concordato i suoi pezzi e si immette e entra nello studio di registrazione. Gli studi di registrazione sono cambiati, io mi ricordo 20 anni fa c'erano degli studi che avevano veramente poco rispetto a quelli di oggi, chiaramente. Dal punto di vista della tecnologia in quel campo è veramente... si è evoluta moltissimo, sono stati dei grandi passi in avanti, soprattutto per quanto riguarda gli effetti speciali. Infatti voi noterete che ci sono dei dischi che hanno veramente dei suoni strani, diversi, fuori dal normale. Sono proprio quei dischi che così iniziano delle nuove tendenze, fanno nascere delle nuove correnti musicali, e questo grazie appunto alla tecnologia che ha messo a disposizione, con l'aiuto naturalmente intelligente di addetti ai lavori, che sono sia i musicisti che i tecnici, che molti dei casi riescono a lavorare insieme e generano e riescono veramente a generare dei suoni che sono notevoli. Suoni che ci fanno passare attraverso diversi stati d'animo, e questo per ricordare quanto è importante il suono. Cioè, l'importanza del suono nella nostra vita, forse non ce ne rendiamo conto, ma in realtà il suono è fondamentale. Il suono ha una forza incredibile. Il suono può veramente metterci in un buon umore, di cattivo umore, può farci arrabbiare, può farci essere allegri, può farci sentire innamorati, può farci sentire tristi. E ci sono molti aspetti della nostra psiche che vengono proprio controllati, possiamo usare questa parola perché è vera, dall'elemento sonoro dalla quale noi veniamo circondati in quel momento. Naturalmente per suoni non intendo soltanto suoni di carattere musicale, nel senso di suoni di strumenti, ma anche suoni in genere che hanno a che fare con rumori della vita. Ad esempio uno che vive in mezzo alla città, no? Per esempio al traffico della città, si abitua a quel suono, si abitua in un certo senso, per modo di dire, perché è frustrato un po' inconsapevolmente quando si rende conto che quel suono non è buono per la sua mente, anche se lui magari è costretto a rimanere in quel posto per motivi di lavoro, però si rende conto della quantità di danno che genera questo suono proprio quando si toglie da quel suono, magari la sera tornando a casa, e sente veramente un senso di sollievo. Oppure ci sono i suoni della natura, belli, i suoni della natura, freschi, i suoni degli uccelli, i suoni del vento, i suoni del tuono, i suoni degli aerei quando passano. Io sono sempre rimasto molto affascinato da questi suoni, soprattutto il suono dell'aereo che passa, che è il suono del tuono. Stiamo sempre cercando di avere un bilanciamento perfetto tra le frequenze basse ed alte, cioè avere una corrispondenza sonora interessante, equilibrata, ma non si riesce mai ad avere questa profondità incredibile che si ascolta quando ci troviamo a testimoniare, ad ascoltare in modo anche imparziale e non certo incapace di agire su quel suono, sarebbe incredibile, i suoni della natura. La natura veramente è un grosso sintetizzatore, è un grosso generatore di suoni, e naturalmente dietro questo grande generatore c'è un grande musicista, il più grande, che è Sri Krishna. E lui praticamente si diverte, gioca con questi suoni, e crea delle sinfonie incredibili, che agli nostri orecchi possono sembrare delle cose strane, delle cose completamente incomprensibili, anche perché molti suoni sfortunatamente noi non possiamo sentirli, ma in realtà Krishna, Dio, la persona suprema, è veramente il musicista per eccellenza, anche perché ha a disposizione, proprio perché l'ha creato lui, lo conosce bene, questo enorme sintetizzatore, questa enorme macchina sonora che è appunto l'elemento materiale, il mondo materiale, con tutti i suoi suoni. Pensate quanti suoni, tutti gli animali, tutti veramente i venti, incredibile, i mari, gli esseri umani, anche gli esseri acquatici, tutti i suoni che esistono, una varietà enorme, gigantesca, infinita, quante combinazioni si potrebbero fare, Dietro tutto questo c'è Krishna, Dio. E naturalmente lui non ha bisogno di andare in uno studio di registrazione, perché questi suoni sono sempre presenti, e non sono presenti dal punto di vista della realizzazione su nastro, su disco, ma sono sempre presenti nella sua forma assoluta, e questa è anche un'altra caratteristica, no? Che si capisce da qui che sono suoni che vengono gestiti da qualcuno con un'intelligenza superiore. Cioè questi suoni sono sempre di prima generazione, cioè quando noi facciamo un suono e poi lo copiamo e lo vogliamo raddoppiare, triplicare, quadruplicare, dobbiamo copiarlo questo suono, e quindi ogni volta che copiamo naturalmente generiamo dei suoni che hanno sempre un po' meno rispetto all'originale. Questo per tanti motivi, e invece Krishna ha così, può generare questi suoni che sono sempre di prima generazione, sono sempre il primo suono. Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC. Dal suono a Krishna, da Krishna al suono, da Krishna al servizio devozionale. Parliamo adesso di servizio devozionale. Che cos'è il servizio devozionale? L'azione compiuta in coscienza di Krishna. A volte così a primo orecchio, diciamo, non a prima vista, così la prima volta che una persona sente questa parola, servizio devozionale, fare qualcosa per Krishna, spesso veramente non si sa dove cominciare. In effetti è molto tempo che la nostra mente, la nostra intelligenza, tutto il nostro io non è più abituato a fare qualcosa per Krishna. Sempre, sempre abbiamo fatto, da tante vite, da migliaia, da miliardi di vite, sempre abbiamo fatto per noi, per il nostro falso io, la nostra falsa identificazione con il corpo. Abbiamo servito migliaia di corpi nei loro bisogni primari e adesso che ci si ripresenta il pensiero, l'idea di fare qualcosa per Krishna, non sappiamo nemmeno cos'è. Quindi impariamo che cosa vuol dire servizio devozionale e ancora meglio ce lo spiegherà adesso la nostra Mirabai Devidasi, la sua specialità. Allora, adesso vorrei leggere per voi alcuni versi delle Veda, questa informazione viene dalla Bhagavad Gita così com'è, che spiega che tutti quanti hanno questo bisogno di agire, di servire, e che per agire è una cosa naturale, neanche Dio non fa niente. Sì, anche Dio è impegnato mattina e sera, almeno attraverso le sue energie, per mantenere questo mondo, tutti gli universi, lui fa un sacco di cose. E lui è Dio, quindi che dire di noi? Anche noi abbiamo bisogno di agire, di fare attività che ci dà una grande soddisfazione. Purtroppo nel mondo di oggi è un caso molto raro trovare una persona che è impegnata in attività che lui piace e che lo rende bene, soddisfacente in tutti gli aspetti e che lo dà i benefici eterni. Invece chi è un devoto di Krishna è già situato su questa piattaforma trascendentale. Andiamo alla Bhagavad Gita così com'è, per un po' di informazioni, un po' di consigli trascendentale. RKG sempre al vostro servizio. La Bhagavad Gita così com'è. Questo è un libro molto molto bello e molto importante per chiunque, voi che siete in ascolto, che vuole veramente capire le nostre relazioni con Krishna, con Dio, e come uno deve agire. Questo libro è pieno di informazioni che è stato utilizzato da milioni e milioni, e direi, questo punto anche miliardi, di persone, di anime spirituali, che attraverso questi consigli, questa informazione trascendentale, ha raggiunto la perfezione della vita umana. Allora, questa volta vediamo dal capitolo 3 intitolato Il Karma Yoga. Vediamo per primo alcuni versi che spiegano la posizione di Krishna, Dio, la persona suprema, e poi dopo alcuni versi che spiegano la nostra posizione come anime molto piccole sotto l'influenza di questa natura materiale, finché noi non siamo collegati con Dio e Krishna, la persona suprema, dopodiché possiamo ritrovare la nostra posizione trascendentale e spirituale. Allora cominciamo dal verso 21, che dice: qualunque cosa faccia un grande uomo, la gente segue le sue tracce, tutto il mondo segue la norma che egli stabilisce col suo esempio. Krishna, questo è Krishna che parla. Lui continua: o figlio di Partha, nei tre sistemi planetari non c'è dovere prescritto per me. Non mi manca niente e non ho bisogno di niente, tuttavia compio i doveri prescritti. Continuando, infatti, se io non mi impegnassi con cura a compiere i doveri prescritti, o parte, tutti gli uomini seguirebbero certamente la mia via. Krishna continua: se mi astenessi dal compiere i doveri prescritti, tutti questi mondi andrebbero in rovina. Sarei la causa di una popolazione non voluta e perderei così la pace di tutti gli esseri. Come l'ignorante compie il suo dovere con attaccamento al risultato, così anche il saggio agisce, ma senza attaccamento, ha solo fine di guidare gli uomini sulla giusta via. Allora vediamo una spiegazione di Acci Bhaktivedanta Swami Prabhupada che spiega un po' questa posizione di Krishna, di la persona suprema. Poi andiamo avanti per vedere la nostra posizione. Allora, così le scritture vediche descrivono Dio la persona suprema. Il Signore Supremo è il controllore di tutti gli altri controllori ed è il più grande tra i capi dei vari pianeti. Tutti sono sotto il suo controllo. Se alcuni esseri hanno particolari poteri, lo devono solo alla sua volontà. Essi non sono mai supremi. Egli è adorato da tutti gli esseri celesti ed è il supremo dirigente tra tutti i dirigenti. Perciò trascende tutti i capi e i controllori materiali e tutti devono adorarlo. Nessuno gli è superiore ed egli è la causa di tutte le cause. Il Signore non possiede un corpo materiale come un comune essere vivente. Non c'è alcuna differenza tra il suo corpo e la sua anima. Egli è assoluto. Tutti i suoi sensi sono trascendentali. Ogni parte del suo corpo può svolgere la funzione delle altre. Perciò nessuno gli è superiore né uguale. I suoi poteri sono infiniti e naturalmente anche le sue meravigliose gesta non hanno fine. Poi Srila Prabhupada continua: poiché in Dio la persona è suprema, tutto è perfezione, verità pura, infinita e assoluta, egli non ha dovere da compiere. Soltanto chi deve subire la conseguenza della propria azione deve anche adempiere determinati doveri. Ma chi non ha niente da desiderare dei tre sistemi planetari non ha certamente alcun dovere. È necessario un certo equilibrio sociale affinché l'uomo progredisca verso la realizzazione spirituale. A questo fine esistono norme di vita sociale e familiare che ogni uomo civile ha il dovere di rispettare. Questi principi regolatori sono destinati agli animi condizionati, non al Signore, ma poiché Egli è venuto a ristabilire le basi della religione, Krishna sceglie di seguire questi principi. Anche se avesse agito diversamente, la gente avrebbe seguito le sue tracce, perché Egli è la più grande autorità. Lo Srimad Bhagavatam ci informa che Krishna osservava tutti i doveri religiosi sia in casa che fuori di casa, come ogni capo famiglia è tenuto a fare. Allora adesso vediamo alcuni versi dal stesso capitolo intitolato Karma Yoga capitolo 3 che spiega la nostra posizione. L'anima sviata dal falso ego crede di essere l'autrice delle proprie azioni, che in realtà sono compiute dalle tre influenze della natura materiale. Poi vediamo il verso seguente. O Arjuna, dalle braccia potenti, colui che conosce la verità assoluta non si preoccupa dei sensi e della gratificazione dei sensi, perché sa quale è la differenza tra l'azione devozionale e l'azione interessata. Allora, siete pronti adesso per ascoltare questa spiegazione di Acci Bhaktivedanta Swami Prabhupada? Sì, sì! Ok. Prabhupada ci spiega, colui che conosce la verità assoluta vede chiaramente che il contatto con la natura materiale lo mette in una posizione piuttosto scomoda. sa di essere parte integrante di Krishna, Dio la persona suprema, e che la sua condizione naturale non è quella di vivere nella creazione materiale. Egli conosce la propria vera identità come parte integrante del Signore, che è felicità e conoscenza eterne, e comprende di essere per qualche ragione prigioniero della concezione materiale dell'esistenza. La sua vocazione naturale è quella di dedicare con amore e devozione ogni atto al Signore Supremo, Sri Krishna. Perciò si impegna nell'attività della coscienza di Krishna e si distacca così dalle attività dei sensi materiali, contingenti e temporanee. Sapendo che la propria condizione materiale di vita sono sotto il controllo supremo del Signore, non è turbato dagli eventi materiali, ma li vede come altrettante manifestazioni della grazia del Signore. Vediamo questo verso 29, che anche esso è molto, molto bello. Sentiamo. Sviato dalle influenze della natura materiale, l'uomo ignorante si impegna completamente nell'attività materiale a cui rimane attaccato. Ma il saggio non deve turbarlo, sebbene queste attività siano inferiori per la mancanza di conoscenze di chi le compie. Spiegazione 10, Bhaktivedanta, Swami Prabhupada. Le persone prive di conoscenza spirituale si sbagliano sulla propria vera identità. Hanno coscienza soltanto della materia e di tutte le sue designazioni temporanee. Il corpo materiale è un dono della natura e colui che si preoccupa troppo del corpo è detto pigro, perché non fa niente per comprendere l'anima spirituale. L'uomo ignorante pensa di essere il corpo. Si attacca alle persone con cui ha legami di parentela, fa della propria terra natale un oggetto di culto e considera i riti religiosi come fini a se stessi. I materialisti possono vantarsi di svolgere attività sociali e altruistiche, ma dietro queste ingannevoli etichette sono sempre occupati in attività materiali. Per loro la realizzazione spirituale non è che un mito senza interesse. Queste persone confuse si impegnano talvolta a seguire elementari principi morali come la non violenza e la beneficenza. Gli uomini illuminati dei principi della vita spirituale non devono turbare questi materialisti, ma meglio che continuino a svolgere il loro dovere spirituale nel silenzio. Gli uomini ignoranti non possono apprezzare l'attività della coscienza di Krishna, perciò Krishna consiglia di non turbarli e di non perdere così del tempo prezioso. Ma i devoti del Signore sono più benevoli del Signore stesso, perché comprendono i suoi piani. Perciò essi affrontano ogni rischio pur di avvicinare gli ignoranti e impegnarli nell'attività della coscienza di Krishna, che sono assolutamente necessarie per l'uomo. Avete ascoltato un po' di informazioni dalla Bhagavad Gita così com'è, capitolo 3, intitolato Karma Yoga. Carissimi amici, se voi avete ascoltato attivamente, potete capire che l'attività degna dell'anima, diciamo, realizzata è servizio devozionale. E anche se in questo ultimo verso Krishna ha consigliato, diciamo, ai saggi di non turbare le persone molto materialiste che non sono interessate nella vita spirituale, un saggio illuminato comprende i piani del Signore. Sappiamo che Krishna vuole che tutti gli anime condizionate siano felici, che tutti ritornino a casa da Lui. Fatto sta che un vero saggio, un vero anima realizzato, non può essere solo contento con la sua felicità, il fatto che lui conosce chi è Krishna, che lui è impegnato nel servizio devozionale. Un vero saggio vuole che tutti gli esseri viventi abbiano l'opportunità di servire Krishna, di conoscere Krishna, di ritrovare la loro posizione originale come servitore di Krishna, Dio la persona suprema. fatto sta è che è per questo motivo esiste questa radio, Radio Cristian Centrale, per diffondere questo messaggio che noi non siamo questo corpo, che Dio esiste, che vive, è bellissimo, che ognuno di noi possiamo avere una relazione basata su amore e devozione con Lui, che questo è lo scopo della vita umana. Dopodiché, cari amici, chi vuole ascoltare questa informazione, chi vuole provarlo, sperimentarlo, chi vuole sapere di più, è sempre invitato a venire a trovarci, a leggere questi bellissimi, interessantissimi libri, e fare domande ai devoti, venire qui a praticare questa Bhakti Yoga, sperimentarlo in persona. Perché questa è una filosofia che non richiede, diciamo, non è basata sulla fede, sentimentalismo. Questa è una scienza, la scienza della spiritualità dell'uomo. E chiunque si impegna con sincerità può provare personalmente i benefici di questo processo meraviglioso, la coscienza di Krishna. When I find myself in times of trouble, Prabhupada comes to me, speaking words of wisdom, Haribo. And in my hour of darkness, He is standing right in front of me, speaking words of wisdom, Haribo. Chant your rounds. Chant your rounds, chant your rounds, chant your rounds. Whisper words of wisdom, Haribo. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, Haribo. But though they may be falling, there is still a chance that they will see. There will be an answer, Haribo. Check your rounds, check your rounds, check your rounds, check your rounds. There will be an answer, Haribo. Check your rounds, check your rounds, check your rounds. We'll be right back. Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC. Allora adesso possiamo sentire cosa ci può dire Shila Prabhupada. E Shila Prabhupada, a dire il vero, ci può dire molte cose. Cosa ci può dire Shila Prabhupada su come vivere, come muoverci in questo mondo materiale che è decisamente imperfetto. Allora sentiamo da uno special Italia di Praladesh Das, le istruzioni appunto di sua divina grazia e sì, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, su come trovare una perfetta conoscenza in un mondo imperfetto. L'argomento di questa conversazione è come trovare perfetta conoscenza in un mondo imperfetto. Dottor Benford, voi probabilmente siete familiare con la teologia occidentale, con il richiamo di questa teologia che parla del problema del male. Perché il male esiste? Srila Prabhupada risponde: il male è l'assenza del bene, proprio come l'oscurità è l'assenza della luce del sole. Se tu ti mantieni sempre nella luce, non c'è possibilità di oscurità. Dio è completamente buono. Così se tu mantieni te stesso sempre in coscienza di Dio, allora non c'è male. Ma perché il mondo fu creato con degli uomini malvagi? Srila Prabhupada risponde: perché è stato creato il dipartimento di polizia? Poiché è necessario. Nello stesso modo, alcune entità viventi vogliono godere questo mondo materiale, per cui Dio lo crea. Egli è proprio come un padre che dà una stanza separata ai suoi bambini cattivi affinché possano giocare in quella. Altrimenti i bambini cattivi lo disturberebbero. Questo mondo allora è qualcosa come una prigione. Sì, è una prigione, quindi c'è sofferenza qua. Nella prigione tu non puoi aspettarti di essere comodo, poiché a meno che ci sia sofferenza, non c'è nessuna lezione per i prigionieri. Questo è affermato nella Bhagavad Gita. Dukkhalayam Ashashvatam. Dukkhalayam significa il luogo per la sofferenza e Ashashvatam significa temporaneo. Non puoi fare un compromesso e dire: d'accordo, io sto soffrendo ma non ci vado, rimarrò qua. Non puoi rimanere qua, tu sarai preso a calci e buttato fuori. Ora tu pensi di essere un americano, di essere un grande scienziato, sei felice e hai un buon salario, va bene. Ma non puoi dire, non puoi stare in questo posto. Verrà un giorno quando verrai buttato fuori e tu non sai se resterai un americano o uno scienziato, oppure diventerai un cane o un gatto o un essere celeste. Tu questo non lo sai. Dottor Belford dice: io penso che probabilmente diventerò nulla. Srila Prabhupada risponde: no, questo è un altro tipo di ignoranza. Krishna spiega nella Bhagavad Gita: Deinos mignatade komaran yovananjara, tatade antara prapti. Prima sei nel corpo di un ragazzo, poi di un giovane uomo, poi nel futuro tu sarai nel corpo di un vecchio uomo. E il dottore dice, ma dopo che io sarò una persona anziana, potrò essere nulla. Sri Prabhupada, no. Tata de antara prapti, dopo la morte tu passerai in un altro corpo, così tu non puoi dire io diventerò nulla. Naturalmente tu puoi dire qualunque cosa, ma le leggi sono differenti. Tu puoi conoscere la legge o puoi magari non conoscere la legge. Questo non ha importanza, la legge agirà lo stesso. Per esempio, se tu pensi io toccherò il fuoco e non mi brucerà, non è vero, ti brucerà. Nello stesso modo tu puoi pensare che non c'è nulla dopo la morte, ma questo non è vero. Dottor Benford dice, ma perché una persona come me, qualcuno che cerca di conoscere, di capire questo mondo in una maniera razionale, sembra non trovare alcun modo per farlo? Tu stai cercando di conoscere le cose in modo razionale, ma non stai andando dal giusto insegnante. Ma io sento che studiando il mondo posso acquisire conoscenza. C'è un modo per controllare, confermare quella conoscenza. Tu formuli delle ipotesi, esegui degli esperimenti, verifichi le tue idee e poi tu vedi che tu vedi se puoi usare queste idee nel mondo pratico. Sì, la prova. Questo è un altro tipo di ignoranza, un altro tipo in più di ignoranza, poiché tu non sai conoscere, tu non sai, non sai, non conosci che tu sei imperfetto. Oh, lo so che non sono perfetto, dice il dottor Benford. Allora, che scopo c'è nel cercare di studiare il mondo in questo modo o in quel modo? Se tu sei imperfetto, il risultato sarà imperfetto. Questo è vero, dice il dottor Bertone. E allora perché sprecare il tuo tempo? Ma non sembra, non ci sia nessun altro modo per conoscere o trovare la conoscenza. Srila Prabhupada dice, anche per la conoscenza materiale tu devi andare all'università e consultare un professore. Nello stesso modo, quando tu vuoi imparare conoscenza spirituale, conoscenza perfetta, tu devi avvicinare un perfetto insegnante. Allora tu otterrai la conoscenza perfetta. Ma come può, dice il dottor Benford, capire uno quando il maestro è perfetto? Dice la prova. Non è difficile. Un insegnante perfetto è uno che ha imparato da un altro insegnante perfetto. Dice Don Benford. Ma questo quasi appena appena rimuove il problema di un gradino. No, risponde la prova, perché c'è un perfetto insegnante, Krishna, che è accettato da tutte le classi di insegnanti. In India noi troviamo ancora la cultura vedica che è insegnata da insegnanti vedici e tutti gli insegnanti vedici accettano Krishna come il supremo insegnante. Loro prendono lezioni da Krishna e insegnano questo. Quindi chiunque io incontro che accetta Krishna come un perfetto insegnante, quella persona è un perfetto insegnante. Sì, risponde Srila Prabhupada, chiunque insegna gli insegnamenti di Krishna, egli è un perfetto insegnante. Allora tutti i devoti qui sono insegnanti perfetti. Sì, poiché loro stanno insegnando solamente gli insegnamenti di Krishna, questo è tutto. Loro possono non essere perfetti, ma qualunque cosa loro dicono è perfetta poiché è insegnata da Krishna. Dottor Belfort dice, ma allora tu non sei perfetto. Srila Prabhupada dice, no, io non sono perfetto. Nessuno di noi può proclamare di essere perfetto. Noi abbiamo così tanti difetti, ma poiché noi non parliamo di nulla al di fuori dell'insegnamento di Krishna, i nostri insegnamenti sono perfetti. Noi siamo proprio come i postini, come un postino che porta un vaglia, ti porta un vaglia di $1,000. Egli non è ricco, ma egli ti dà questo vaglia, questa busta a te, te la dà così com'è. E tu ne ottieni beneficio. Egli non è ricco, ma la sua azione è perfetta, è un'azione onesta. Nello stesso modo, noi non siamo perfetti, siamo pieni di imperfezioni, ma non andiamo al di là degli insegnamenti di Krishna. Questo è il nostro metodo, e quindi i nostri insegnamenti sono perfetti. Avete sentito la saggezza profonda di Srila Prabhupada? Non a caso Srila Prabhupada ha fondato il Movimento Internazionale per la Coscienza di Krishna, l'associazione internazionale ISKCON, International Society for Krishna Consciousness, da solo, completamente privo di alcun tipo di aiuto, però semplicemente con la sua grande fede e la sua grande conoscenza è riuscito a iniziare questa grandissima cosa che è l'ISKCON, che è l'associazione internazionale per la coscienza di Krishna. Quindi vediamo che come lui sia sempre perfettamente lucido, sempre perfettamente cosciente e estremamente filosofico in tutte le sue affermazioni. Srila Prabhupada era proprio così. Ogni volta che parlava, parlava sempre per diffondere il messaggio della coscienza di Krishna. Un po' come appunto lui diceva, noi possiamo anche avere dei difetti, ognuno di noi può avere dei difetti, ma finché noi riportiamo il messaggio che Krishna ci dà tale quale, allora anche se noi abbiamo dei difetti il nostro messaggio diventa puro, perfetto, perché noi non aggiungiamo né togliamo nulla. Quindi questa è una cosa molto importante per ricevere la conoscenza spirituale, bisogna riceverla in maniera parampara, ossia in maniera diretta, in discesa diretta dalla fonte della conoscenza che è Krishna. Quindi bisogna ricevere la conoscenza senza aggiungere e senza togliere, e se noi avremo questa grande fortuna di ricevere la conoscenza in questo modo e avremo anche la fortuna di essere in grado di ricevere questa conoscenza in una maniera sottomessa e umile, allora vedrete che otterremo grande beneficio da questa conoscenza. Adesso vi lascio in compagnia di un devoto che si chiama Chudananda Swami, che canta un brano che si chiama Mangala Charana ed è un insieme di omaggi, di preghiere che vengono offerti a Krishna e a tutti i suoi associati, iniziando dalle Gopi, da Srimati Radharani e venendo giù lentamente lungo la catena Parampara fino ai maestri spirituali attuali, alle varie incarnazioni di Krishna, eccetera. È una si intitola Mangala Charana ed è cantata da Chudananda Swami, è tratto da long playing Shruti Smriti. Bandeham Sri Guru Sri Jata Padakamala Sri Gurun Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Pada Sahagana Lalita Sri Vishaka Nitamscha Namaom Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nityanamine Namaste Saraswati Devam Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhakti Siddhanta Saraswati Tinamine Sri Varsha Bhanavi Devi Daitaya Kripavadhai Krishna Sambandha Vigyana Daine Prabhave Namaha Madhurjayujwala Premadhyas Sri Rupanuga Bhaktida Sri Gaura Karuna Shakti Vigrahaya Namastute Namaste Gauravani Sri Murtaye Dinatarine Rupanuga Virudhapa Siddhanta Dhanta Harine Namo Gaura Kishoraya Sakshat Vairagya Murtaye Vipralambara Sambodhe Padambhu Jayate Namaha Namo Bhakti Vinodaya Satchidananda Namine Gaura Shakti Swarupaya Rupanuga Varayate Gaura Virabhava Bhumestvam Nirdishthaya Sajana Priya Vaishnava Sarva Bhauma Sri Jagannathayate Namaha Vanchakalapatarubhyascha Kripasindhubhyayavacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Namo Mahavatanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvishe Namaha Panchatatvatmakam Krishnam Bhaktarupa Swarupakam Bhaktavataranga Bhaktakyam Namami Bhakta Shaktikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabando Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Jayatan surato pangor mamo manda mater gati matsaravasyam padam bhojo Sri Radha madana mohano Divyada brandaranya kalabadrumadha Sri madaratnangara singhasanasto Sri Sri Radha Srila Govinda Devo Prashthalibhi Sevyamano Smarami Sriman Rasrasarambhi Vanshivata Tatashtita Karshan Venu Sanair Gopi Gopinath Sriyastuna Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC. Che questo concetto di tramite trasparente all'inizio mi colpì molto, però non riuscivo bene a, così, a capire che cosa significasse essere un tramite trasparente. Man mano invece che conoscevo di più la figura di Srila Prabhupada, quello che lui fece, che leggevo di più e approfondivo i suoi libri, le sue traduzioni, le sue spiegazioni dei libri, dei grandi classici dell'India, di questa conoscenza antica e così nascosta dietro al segreto per noi veramente imperscrutabile della lingua sanscrita, dicevo man mano che leggevo questi scritti e così attraverso questi scritti conoscevo la persona di Srila Prabhupada, allora mi diventava anche chiaro che cosa significava essere un tramite trasparente tra il mondo, l'umanità e Krishna, Dio, la persona suprema. La trasparenza fa venire subito in mente un qualcosa di limpido, di chiaro, di semplice. Tutte queste parole che hanno tutto un significato chiaramente in virtù, positivo. La trasparenza fa venire in mente la pulizia. E la trasparenza anche dà un certo senso di sicurezza, perché attraverso una cosa trasparente si può vedere. Ed è tutto questo che Srila Prabhupada, che appartiene naturalmente a una linea di maestri spirituali ininterrotta che hanno tutti quanti le medesime qualità e che sono tutti quanti dei tramiti trasparenti, attraverso tutte queste trasparenze che non apportano nessuna modifica al messaggio di Krishna, di Dio, nessuna speculazione mentale, noi possiamo intravedere, vedere Dio, Krishna, la persona suprema. Ed è grazie a lui, grazie a Srila Prabhupada, che così tanti giovani, così tante persone hanno cambiato decisamente la loro vita, che nel migliore delle ipotesi era comunque sempre una tragedia, perché vivere materialmente in questo mondo materiale è una sofferenza veramente non indifferente, e questo lo si può capire molto bene una volta che una persona è così, si è, ha cominciato a sviluppare, a svegliare la sua coscienza di Cristo. Magari mentre una persona è immersa nella gratificazione dei sensi, nella vita materiale, può credere, illudendosi, di essere felice. Ma in realtà, vi assicuro, non è così. Provare per credere. Ed è grazie a lui che i devoti di Krishna, appunto, dicevo, hanno cambiato completamente le loro abitudini. E così, vogliamo sentire, da una speciale Italia, come passano la loro giornata i devoti di Krishna. Allora, i devoti di Krishna si alzano molto presto la mattina, dalle 3:30 alle 4. Per quale motivo, voi dite, a quest'ora così, come si dice, antelucana, si dice? Comunque, c'è un'espressione che non ricordo più, comunque un'ora molto, molto, diciamo così, molto presto al mattino, no? Bene, i devoti di Krishna si alzano verso 3:30 a 4 della mattina. Per quale motivo? Perché è un'ora molto adatta alle pratiche spirituali che intendiamo svolgere la mattina. Comunque, tanto per cominciare bisogna parlare del sonno, ovvero sia ciò che c'è prima questo programma del mattino. Allora qualcuno dirà, ma a che ora andate a dormire voi altri? Perché generalmente se voi venite al tempio vedrete che i devoti di Krishna sono alzati fino a 9:30, 10 minimo, perlomeno. Allora uno dice, beh, dalle 10 alle 4 sono 6 ore, non sono troppo poche 6 ore. Naturalmente c'è chi dorme 10 ore, 12 ore addirittura, eh? C'è gente che lavora e dorme, mangia anche. Mangia, lavora, dorme, dorme, lavora e mangia. Questo è tutto quello che compiono generalmente nel corso della settimana. E naturalmente poi la festa della domenica se la passa magari allo stadio, questa è l'unica cosa di differente che c'è. Bene, a sostegno del tempo... di quanto dormono i devoti di Krishna avviene uno scienziato di nome Jim Horn. Bene, questo scienziato Jim Horn ha partecipato alla conferenza annuale dell'Associazione Britannica per il processo, per il progresso, scusate, della scienza. Allora, vediamo un pochettino. La sua relazione era intitolata Il genere umano dorme troppo. Ripeto, lo ha dichiarato Jim Horn durante l'annuale conferenza dell'Associazione Britannica per il Progresso della Scienza. Infatti, tutti gli esperimenti, durante gli esperimenti un gruppo di persone è stato privato del sonno per 3 notti consecutive. Al termine della ricerca è risultato che erano sufficienti 8 ore di sonno per riprendersi in pieno dalla stanchezza. Secondo Horn abbiamo bisogno di riposare solo il cervello, in quanto i muscoli e gli altri organi del corpo eliminano la stanchezza con il relax e il non movimento. Quindi lo scienziato Horn, Jim Horn, dice che i muscoli e gli altri organi del proprio corpo, a parte il cervello, hanno bisogno di un certo relax e non movimento, non hanno assolutamente bisogno del sonno. Il sonno è un qualcosa che beneficia soprattutto il cervello. Bene, ora vediamo che dice a proposito del cervello. E dice, per il cervello bastano le prime 4-5 ore circa, che costituiscono la parte più profonda del sonno, e metà del sonno denominato REM, quello in cui si manifestano i sogni. Tutto il resto, secondo Horn, è tempo inutilmente sottratto ad attività più produttive. Bene, Jim Horn dice quindi che i devoti effettivamente hanno ragione, ovvero sia il corpo si deve rilassare, i muscoli e tutti gli altri organi, ma il cervello ha bisogno di dormire 4-5 ore di sonno e più la metà del sonno denominato REM, quello in cui si manifestano i sogni, per un totale di circa 6 ore in totale, da 6 ore a 7 ore a massimo. 7 ore naturalmente quando il soggetto è particolarmente stanco, quando ha faticato specialmente mentalmente in modo particolare, e allora c'è questa oretta in più di extra durante i quali il riposo può essere completato. Ma in un momento normale della nostra vita abbiamo bisogno di circa 6 ore per dormire e non di più. Tutto il resto, anche a detta di questo scienziato Jim Horn, dice che tutto il resto è tempo inutilmente sottratto ad attività più produttive. Bene, allora, quali sono queste attività più produttive? Naturalmente quando si parla di produrre si parla anche del soggetto che produce. Bene, l'attività più produttiva è proprio quell'attività che direttamente interessa il soggetto e che beneficia il soggetto, della quale il soggetto appunto beneficia. Bene, il movimento per la coscienza di Krishna accetta l'identità della persona come anima spirituale e di conseguenza il tempo più produttivo è quello dedicato appunto alla ricerca della purificazione del sé o dell'anima spirituale. Quindi produrre per il soggetto, produrre soprattutto per noi stessi anime spirituali che siamo distinti da questo corpo, è l'attività più produttiva che una persona possa fare, soprattutto sottraendo il tempo a questo periodo di sonno che noi abbiamo a disposizione durante la notte, sono naturalmente le attività spirituali classiche, quello classicamente dette, che ora cercheremo di elencarvi nella maniera più dettagliata possibile. Allora, radioascoltatori di RKC, ora i devoti di Krishna vi dicono quello che fanno dalle 4 della mattina in poi, pensate un pochettino, dalle 4 della mattina in poi, molti di voi direte, ma voi che fate tutta la mattina lì? Le luci del tempio sono accese fin dalle 3 e mezza, 4, ma insomma, cosa fate? Bene, ora ve lo dirò. Bene, allora i devoti di Krishna si alzano presto. Alle 4:30 i devoti di Krishna devono essere tutti già presenti nella sala del tempio, ovvero sia in quella sala che è adibita esclusivamente alle cerimonie propriamente dette. E in questa sala, chiunque di voi ci sarà stato lo saprà benissimo, che in questa sala è costituita di una bella stanza pulita, profumata, e al centro, in fondo di questa stanza c'è l'altare. L'altare dove in alto sono posti le immagini, o meglio ancora in altri templi, dove ci sono le murti, ovvero cioè delle statue che personificano il Signore Supremo Sri Krishna nella sua forma personale, nella sua forma particolarmente benedetta soprattutto per noi, perché attraverso questa forma Dio si manifesta per poter accettare un servizio personale. Quindi noi siamo immagini di Dio per quale motivo? Perché è necessario quello di sviluppare, il fatto di sviluppare una relazione personale con Dio, questo è molto importante, perché Dio è una persona, Dio non è un concetto, Dio non è un qualcosa di impersonale, Dio è una persona ben precisa e Krishna, attraverso la sua misericordia, si manifesta in una forma tipo statua, e questa statua possiamo fare qualche servizio personale, possiamo vestirlo, offrire da mangiare in un posto pulito e profumato, esattamente come si tratta una persona. Dio naturalmente non ha bisogno né di mangiare né di essere vestito da noi, ma accetta come servizio devozionale. lo accetta così come un padre accetta un dono dal figlio, da un bambino. Non so chi di voi sarà capitato quando era bambino, o magari chi di voi mi sta ascoltando che è un bambino magari. Quanti di noi avranno fatto a nostro padre di regalo una cravatta, ad esempio, il giorno del compleanno di nostro padre, una cravatta? Naturalmente io ricordo, mio padre aveva un sacco di cravatte, va bene? Poi quando io sono arrivato il giorno del suo compleanno con una cravatta, lui è rimasto così commosso che per settimane non se l'è più tolta praticamente, sempre quella, solo quella. Qualcuno dirà, cosa sarà mai? Il bambino, tutto il bambino non può comprare la cravatta senza il denaro del padre, ultimamente tutto viene dal padre, va bene? Però l'atto del bambino di prendere i soldi, anche se sono del padre, andare a comprare qualcosa ed offrirlo al padre, il padre lo accetta perché è stato fatto con sentimento, con amore. Quindi magari quella cravatta non era manco tanto bella, non era manco fatta tanto bene, però perché è stato donato con amore e devozione, e allora il padre lo accetta e magari non reputa neanche tanto importanti e non gli piacciono neanche più tutte quelle bellissime cravatte magari che si era comprato lui stesso. Preferisce una cravatta brutta regalata dal figlio con amore, con rispetto, piuttosto che bellissime cravatte comprate da sé. Quindi Dio, Krishna, non ha bisogno del nostro servizio, non ha bisogno del nostro cibo, non ha bisogno del nostro altare né di una stanza per lui, naturalmente, perché egli è la suprema persona, completa in se stessa, sufficiente in se stessa, diciamo così, non ha bisogno di niente di nessuno. Però accetta il servizio devozionale dei suoi figli come un atto di amore, e proprio perché questo è un atto d'amore, allora lo apprezza più di ogni altra cosa. Bene, in questa sala del tempio i devoti si riuniscono. Alle 4:30 comincia ciò che viene chiamato da noi il Mongol Artic. In sanscrito veramente è scritto in questa maniera: Mangala Aratrika. Bene, il Mongol Artic è la prima cerimonia che si offre al Signore Supremo Sri Krishna, ed è una cerimonia molto, molto bella, molto suggestiva. C'è un devoto dentro l'altare. Bene, in questo altare il devoto ha una specie di piatto con degli articoli, diciamo così, con delle cose che offrirà uno dopo l'altro alle forme divine sull'altare. Ci sono delle fiamme, ci sono dei ventagli, ci sono delle specie di code, si chiama chamara, quell'affare, una specie di yak. Una coda di yak. E mentre il devoto offre tutte queste cose, uno dopo l'altro, a una forma divina e poi all'altra forma divina, i devoti cantano una canzone chiamata Shri Shri Gur Ashtakam. Shri Shri Gur Ashtakam è una canzone scritta da Sridhar Srinivas Thakur. Bene, costui aveva scritto, è un santo, una persona santa, apparsa verso il 1500, che ha scritto questa bellissima canzone in onore e glorificazione del maestro spirituale, del guru. Astaka significa appunto preghiera offerta a Shri Shri Guru Astakam, e significa preghiere offerte al maestro spirituale. Ashta infatti significa 8, sono 8 quartine che glorificano il Signore Supremo e che finiscono tutte quante con una linea uguale che dice in questa maniera: Vande Guru Shri Charanaravindam. Bene, magari dopo potremo parlare un pochettino di questa preghiera, magari ora potremo sospendere un attimino la nostra presentazione e farvi sentire appunto il Sri Sri Gur Ashtakam nell'esecuzione di Sua Divina Grazia Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Mm-hmm. Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC. Avete sentito Bhaktivedanta Swami Prabhupada cantare il stesso di Gurvastakam, o la canzone dedicata al maestro spirituale che i devoti di Krishna cantano ogni mattina durante il Mongol Arctic. Ricapitolando quel poco del quale abbiamo parlato che i devoti di Krishna si alzano molto presto la mattina per essere pronti alle 4:30. Che fanno durante il periodo? Beh, semplicemente pensano alla loro igiene personale. Perché, per esempio, un'altra cosa molto importante per la nostra vita è l'igiene, naturalmente, del proprio corpo, perché la nostra mente o la nostra capacità di concentrarsi sulle cose spirituali dipende molto anche dalla nostra situazione fisica, diciamo così. In un corpo sporco, per esempio, non si può pensare molto bene a cose spirituali che sono di natura elevate o sotto l'influenza della virtù, diciamo così, mentre invece la sporcizia è sintomo di ignoranza. Una persona sotto l'influenza dell'ignoranza non può avere la freschezza mentale sufficiente per potersi concentrare su argomenti spirituali. Quindi appena si alzano i devoti di Krishna fanno una bella doccia con sapone anche. Sapone c'è sempre anche lì. Dopodiché si cambiano il vestito, bene, perché noi cambiamo il vestito uno o addirittura certe volte due volte al giorno, perché ci piace essere puliti. Naturalmente questa non è una mania, c'era una volta, avevo visto un film, un documentario che trattava di una strana malattia, una specie di mania della pulizia, bene, che c'erano delle persone che andavano in giro sempre con dei batuffoli di cotone con dell'alcol in tasca e quando toccavano qualcosa con le mani immediatamente, subito dopo, si passavano il batuffolo di cotone con l'alcol, imbevuto di alcol, per purificarsi. No, questa è naturalmente una mania, un po' troppo, no? Però una bella doccia al giorno con dei bei vestiti puliti ogni giorno, questo è senz'altro positivo. Soprattutto perché i devoti di Krishna non hanno problemi di rovinare i vestiti, perché i nostri vestiti sono molto semplici e sono fatti di cotone normalissimo, per cui non è assolutamente difficile. E i vestiti non si rovinano assolutamente, perché sono fatti bene, non sono fatti come i vestiti di oggi, i vestiti occidentali, che praticamente non possono essere lavati con l'acqua, non possono essere lavati in lavatrice, non possono essere strofinati, sono veramente molto molto antigienici queste giacche, questi vestiti, questi pantaloni, veramente antigienici, e attraggono il fumo, attraggono il caos della città, attraggono ogni cosa, e non si riesce mai a farli diventare veramente puliti nel senso stretto della parola. Quindi ricapitoliamo, i devoti si alzano alle 3:30-4, una bella doccia, e dopodiché scambiano i vestiti, poi vanno al Mongol Arti, che ha sentito Srila Prabhupada, maestro spirituale fondatore del movimento Hare Krishna, che cantava Sri Sri Gurvastaka, la canzone che cantiamo ogni mattina al Mongol Arti. L'atmosfera della sala del tempio in quel momento è diventata veramente idilliaca, ci sono tutti questi devoti belli puliti che cantano con degli strumenti, prima di tutto non è soltanto una recitazione ma è un vero canto, con quei cembali a mano che noi chiamiamo kartals, sono quei specie di piattini che tutti voi avrete visto quando avete osservato i devoti cantare per le strade, quelli si chiamano i kartals. Dopodiché c'è una specie di tamburo che si chiama mridanga, ed ha una parte piccola per i suoni acuti, quando lo si batte produce dei suoni acuti, e una parte più grande per produrre i suoni bassi. E quindi questa è la mridanga e i kartals. I devoti cantano, non cantano soltanto Sri Sri Gurvastaka, cantano anche altre preghiere e altre canzoni, altri mantra, e naturalmente il tutto sfocia nel nostro classico, classicissimo, tradizionale Hare Krishna Mahamantra. Bene, dopodiché, dopo finito il Mongol Arctic, naturalmente l'atmosfera è molto carica di spiritualità e di concentrazione, ormai la stanza è molto profumata degli incensi, l'atmosfera è serena, non ci sono macchine per le strade, non c'è gente che si affanna per nulla, non c'è gente che soffre, non ci sono sirene, non c'è niente di tutto questo, l'atmosfera è molto calda, molto fresca, diciamo così, calda nel senso di sensazione, ma fresca perché non c'è tutto quell'agitarsi che caratterizza invece la giornata, quando la gente esce dalle loro case e comincia a lavorare per nulla. A quel momento comincia l'altro stadio del programma del mattino, ovvero sia Japa Mala. Il termine mala in sanscrito si riferisce a una corona che i devoti hanno. Avrete visto sicuramente il sacchettino, i devoti hanno sempre appeso al collo una specie di sacchettino che penzola. Dentro il sacchettino, se chiedete a qualche devoto di mostrarvi il contenuto, vedrete una specie di corona simile al rosario cristiano. Bene, questa corona, la parte fisica della corona, si chiama mala, e japa è l'atto di cantare sulla corona. Bene, il tutto quindi si chiama japa mala. Bene, questa corona è composta di 108 grani, palline, diciamo così, e un 108 mantra, costituiscono un giro di japa mala, di japa appunto, e 16 di questi giri costituiscono la quantità quotidiana che i devoti di Krishna cantano del mantra Hare Krishna. Quindi comincia proprio quel periodo in cui il devoto si siede nella sala del tempio, appunto davanti all'altare, e comincia a recitare il mantra in una maniera recitata, senza strumenti, senza cantare, semplicemente per se stessi, diciamo così. E il devoto in questa maniera riesce a stabilire un contatto diretto con Krishna, con la Suprema Persona, con la realtà trascendente. Diciamo che questo può essere detto il momento più importante della giornata del devoto, senz'altro, perché è attraverso questo canto della japa che il devoto acquista la sua energia, la sua forza per continuare in maniera entusiasta nella vita devozionale, nella vita spirituale. Talvolta i devoti cantano la japa seduti e talvolta invece i devoti cantano i giri, diciamo così. Generalmente sentite sempre i devoti con questa terminologia, cantano i giri in piedi oppure talvolta camminando su e giù per la stanza. Non di rado, dalle 5 in poi, perché il mongolarte che dura mezz'ora, dalle 4 e mezza alle 5, poi dalle 5 alle 7 praticamente, non di rado potete vedere i devoti di Krishna per le strade silenziose e deserte delle città cantando Hare Krishna. A voce bassa, per non disturbare la gente, con la mano infilata nel sacchetto che contiene la corona, la mala. Bene, questo è il periodo di meditazione, questo è anche chiamato mantra yoga o japa yoga, questo è veramente molto importante. Chi di voi può nella propria casa alzarsi presto la mattina e cantare il mantra di Krishna sentirà una nuova energia spirituale infonderlo tutto, entrare nel cuore e sentire effettivamente, vedere come la propria visione delle cose cambia completamente. È una maniera nuova di cominciare il giorno, per vivere il giorno in maniera nuova, diversa, originale. Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC. Ormai ce n'è rimasto veramente poco per la nostra puntata di Fuori dal Tempo. E avete sentito come i devoti iniziano la loro giornata, eh? Sempre, sempre così, tutte le mattine. Qualcuno dirà, ma non è un po' noioso? No, assolutamente no. Il gusto della vita spirituale, delle attività spirituali, è in continuo aumento. Ed è questo proprio che caratterizza questo tipo di attività. A differenza delle attività materiali, che quando cominciano a essere ripetute due o tre volte, almeno finché ne abbiamo memoria, dopo un po' stancano, le attività spirituali, man mano che si compiono, aumentano sempre di più il loro nettare, come si dice nel linguaggio devotesco, il loro gusto superiore si manifesta ogni volta di più. Benissimo, allora siamo arrivati, come dicevamo, alla fine di questa puntata. Io mi auguro che voi rimaniate sempre all'ascolto di RKC Radio Krishna Centrale e vi rimando per la prossima puntata, alla prossima puntata, per il continuo della giornata del devoto. Come avete sentito, i devoti di Krishna non dimenticano mai, ogni mattina in quest'ora, nel Brahma Murta, l'ora è così bella, così propizia, così tranquilla, anche tranquilla di suoni, è così adatta per cantare il Maha Mantra Hare Krishna. Ripetiamolo ancora una volta tutti insieme: Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Saluto ancora dunque e a risentirci a presto e Hare Krishna. Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC. Letteralmente Radio Yoga Network. www.letteralmente.info. Nostro indirizzo di posta elettronica Radio Yoga Network @gmail.com. Buon ascolto!